Radio Wombat. Da sempre. E obiettivamente. La migliore. Buonasera, buonasera a tutte le persone all'ascolto, io sono Mario e siete collegati con me per una nuova diretta che ormai è consueta tutti i giorni, da 3 mesi a questa parte, ogni sera alle 19 con me in particolare, ogni domenica. Benvenuti all'ascolto di questa nuova puntata in diretta che come sempre mira a informarvi ma anche, e oggi direi soprattutto, a intrattenervi. Dunque, di cosa parleremo oggi? Un sacco di temi e un paio di ospiti, un paio di grandi ritorni. Chi segue il maledetto Facebook magari ha già visto chi saranno, chi no in realtà lo saprà fra poco, soprattutto perché niente, uno dei due è a fare la spesa all'S Lunga, vediamo se tornerà in tempo, sì sì. Ma in realtà direi quasi meglio, perché prima di tutto vorrei darvi qualche informazione io, alcuni approfondimenti dalle lotte e le iniziative di sostegno in corso qua a Firenze. Prima di tutto però vi ricordo che, questo lo sapete, ci state ormai ascoltando su wombat.noblogs.org oppure sulle frequenze 1359 AM. Vi ricordo anche come si può interagire direttamente con la diretta, ovvero adoperando l'indirizzo email wombat.no@insiberia.net oppure il pad sul quale scrivere cose che posso leggere direttamente. Si va su rafanu.vado.li, rafanu con la U, oppure cliccando dalla prima pagina del sito sul link diretta Wombat. Va bene, c'è già chi mi chiede di annunciare gli ospiti. Va bene. Saranno... Allora, prima di tutto, come ho detto, un po' di rassegna stampa, approfondimenti e poi subito dopo ci incammineremo per la via del burrone. Arriverà infatti qua su queste frequenze a commentare un sacco di assurde notizie da tutto il mondo Antonio Probo e poi col maestro Ottani andremo nell'interspazio. Ma io direi che è il caso subito di mettere una canzoncina di riscaldamento, così controllo anche che si senta tutto bene, anche perché poi la colonna sonora di oggi, a parte questa prima canzone, non sarà decisa da me, né ci saranno pezzi italiani, ahimè. E allora scelgo un pezzaccio clamoroso da mandare subito qua in apertura. State con noi, a fra pochissimo, Wombat! Grillo disse un giorno alla formica, il pane per l'inverno tu ce l'hai, perché protesti sempre per il vino, aspetta la vendemmia e ce l'avrai. Mi sembra di sentire mio fratello, che aveva un grattacielo nel Perù, voleva arrivare fino in cielo, e il grattacielo adesso non l'ha più. Finché la barca va, quando l'amore viene il campanello suonerà. ti vuol bene, perché sogni le donne di città. Mi sembra di vedere mia sorella, che aveva un fidanzato di Cantù. Voleva averne uno anche in Cina, e il fidanzato adesso non l'ha più. Finca barca va, lasciala andare, finca barca va. Sì, ti sto sentendo, amico, ma non è ancora il tuo momento. Proviamo, forza. Dai, rovina questa puntata, su. Che devo fare? Nulla. Funziona tutto, ci sentiamo fra 20 minuti. Ciao, amico. Ciao. Ebbene, quindi abbiamo fatto in diretta la prova. Ebbene, sì, sì, era la voce di Antonio Probo. Lo rivedremo, lo risentiremo, anzi, fra pochissimo. Ma adesso, come promesso, qualche approfondimento, qualche notizia da Firenze. La prima è una notizia che arriva da un posto a cui io, ma tanti di noi della radio, ma non solo, siamo molto affezionati. È infatti un appello lanciato da Frammenti e Trame, un locale storico, cioè da più di 20 anni, a Rifredi. Hanno fatto un appello in sostegno, per richiedere un sostegno contro la possibile chiusura di Frammenti dalla loro pagina Facebook. Beh, prima di tutto io direi di leggerlo. Scrivono questo. Ragazzi, Frammenti muore. Dopo quello che è successo può apparire banale parlare delle difficoltà che mettono a rischio il futuro e la vita di un luogo che per 20 anni è stato un punto di riferimento nella città di Firenze. Frammenti e Trame è nato nel 1998. Fino ad oggi è stato un classico luogo di incontro, che ogni sera si riempie di giovani e meno giovani che vogliono trascorrere una serata in compagnia. Si trova nel quartiere di Rifredi, dove gli spazi da vivere, per il semplice pregio di stare insieme, stanno lentamente svanendo. Pur essendo una piccola realtà, sono stati in tanti a chiederci di resistere per non perdere un pezzo di cultura e di socialità. Tuttavia la crisi è dura, e come due fantasmi che a fine mese incassano zero, diventa per noi impossibile coprire le immancabili spese correnti. Oggi può sembrare scontato, e tra qualche giorno forse non ci sarà più traccia. Ma per un lungo tempo la patria e il Curi si sono spesi con dedizione e passione per far trovare sempre aperto Frammenti e Trame che ti risolve le serate. Spesso senza sosta per settimane, mesi, stagioni, e senza mai saltare un giorno. Sempre con un sorriso, malgrado non sia facile avere sempre un sorriso. Pronti ad accogliere chi vuole fare festa, un compleanno, una laurea o qualsivoglia momento da ricordare. E anche per chi, viceversa, cercava un rifugio per superare una crisi, scaricare la tensione o distrarsi da qualche brutta storia. Sono stati molti quelli che ci hanno suggerito di lanciare un appello per poter salvare il posto, un posto che è entrato nel cuore di tanti. Da qui l'idea di pubblicare un volume dal titolo Il libro rosso dei Frammenti e Trame. una raccolta di vignette che raccontano 20 anni di un piccolo prezioso spazio. Del resto, con il fumetto è nato Frammenti. Con il fumetto è stato Frammenti. E di conseguenza, con il fumetto cercherà di sopravvivere. Pertanto prenota la tua copia, sarà lo strumento per chi vorrà aiutarci. Con un'offerta, a partire da un minimo di 20 euro, riceverà la sua personale copia di 110 pagine in formato A4, un'edizione limitata e numerata, la cui riproduzione sarà destinata solo a chi vuole contribuire con la propria donazione e a farci superare questo periodo. Per non veder sparire un posto che negli anni ha dato tanto e con l'intima speranza di rivederlo aperto quanto prima. Sinceramente confidiamo che il nostro accorato appello possa raggiungere tanti cari amici pronti a non sottovalutare il grosso rischio di chiusura. Ringraziando tutti quelli che hanno compreso, vi invitiamo a sostenere Frammenti e Trame. E poi c'è sulla loro pagina un IBAN, un'intestazione a Francesco Cortelloni, una causale Frammenti e Trame per emergenza Covid. Quindi questo appello, che è stato fatto da Frammenti e Trame sulla loro pagina Facebook, è ancora valido, ancora attivo, e per chi volesse sostenere e quindi raccogliere questa e quindi avere questa raccolta di 110 pagine di fumetti in sostegno di un posto che è davvero un punto di riferimento, e i rifredini, ma non solo, lo sanno bene, e noi ci associamo di brutto a questo appello e vi invitiamo a farlo, sì. Fra l'altro il Curi, Francesco Cortelloni, appunto il fumettista, autore anche di queste vignette, anche un romanziere. Io ho letto due suoi romanzi, erano, come si intitolava, uno era sicuramente La Salma di Mike e l'altro, ora mi sfugge, Il Trattato dei Sogni e degli Incubi, che fra l'altro ha presentato anche in alcuni posti a Firenze. Magari nei prossimi tempi lo inviterò a Poiuit, Lettere Contrarie, il programma della domenica pomeriggio delle 15.30 dedicato alla letteratura, perché no? E poi un'altra notizia invece per il prossimo futuro, ovvero la manifestazione, anzi diciamo il flash mob indetto dai COBAS e dall'USB per martedì prossimo alle ore 14 in Piazza della Signoria. Beh, che succede? Succede che, come in molti sanno, insomma, il Comune di Firenze ha esternalizzato il lavoro nelle biblioteche fiorentine. Di queste biblioteche alcune ripartiranno dopodomani, martedì 26, ma poche e in modalità sicuramente molto ridotta. In particolare riapriranno lasciando tutti i lavoratori delle cooperative a casa, con una cassa integrazione che peraltro scade fra 2 settimane. E sì, succede questo. Succede che il Comune di Firenze decide di risparmiare proprio sulla pelle degli operatori che per tanti anni hanno portato avanti un servizio, direi, assolutamente vitale per la comunità. Per questo è stato lanciato un flash mob, appunto ricordo dei COBAS e dall'USB, per martedì dopodomani alle 14 in Piazza della Signoria. Funziona così: prendi il tuo libro e scendi in piazza, scrivono sul loro volantino. Mentre il Comune di Firenze riapre solo 5 biblioteche su 13, la maggior parte dei lavoratori in appalto rimane a casa e senza garanzie. Chiediamo garanzie sul rientro al lavoro del personale in appalto, garanzie sulla proroga dell'attuale appalto e sul nuovo bando di gara, tutela per tutte le lavoratrici e i lavoratori. Quindi con un libro in mano scendiamo tutti in piazza questo martedì alle 14. C'è anche un evento Facebook, ora lo trovo, si chiama Biblio Precari in Piazza, dove ci sono anche indicazioni, ad esempio sull'essential, come si dice, kit, che è mascherina più maglietta bianca più un buon libro. La manifestazione è indetta da i COBAS e dall'Unione Sindacale di Base. E invece la notizia di una vittoria non completa ma sicuramente importante è quella che danno gli studenti di sinistra. Abbiamo il fondo di solidarietà. Pubblicano infatti sulle loro pagine questo comunicato. Durante il Senato accademico è passata una mozione, fa riferimento a ieri l'altro, quindi durante il Senato accademico di oggi, si parla di venerdì, è passata una mozione di tutte le rappresentanze studentesche che prevede l'istituzione di un fondo per le studentesse e gli studenti in difficoltà economica. Ciò che siamo riusciti a ottenere, grazie all'attivazione e alle richieste che come studenti di sinistra abbiamo portato avanti da ormai un mese, è quindi lo stanziamento di fondi per cercare di sopperire alle difficoltà economiche che molti studenti e le loro famiglie si stanno trovando ad affrontare in questi mesi a causa del blocco delle attività produttive. Tali difficoltà costituiscono un vero e proprio ostacolo al proseguimento degli studi, specialmente in un momento in cui disporre di strumenti tecnologici adeguati è un requisito indispensabile e dato per scontato dall'Ateneo, e in cui procurarsi il materiale di studio in forme economiche, ad esempio tramite il materiale usato, è stato praticamente impossibile. I destinatari e le modalità di erogazione dei benefici verranno decise prossimamente. Vi invitiamo a restare aggiornati sui nostri canali. La cifra da destinare al fondo non è ancora stata stabilita con certezza, ma vista l'urgenza della misura, crediamo che sia fondamentale che venga stanziata una somma all'altezza della sfida per rispondere a tutti gli studenti e le studentesse che ne abbiano bisogno. Vogliamo inoltre un'accessibilità totale al fondo per chiunque ne abbia bisogno, eliminando i soliti ostacoli legati al merito, che in una situazione del genere perdono ancora più senso. Crediamo che sia fondamentale che chiunque si trovi in difficoltà debba avere accesso a questo fondo. Introdurre criteri di produttività vuol dire escludere proprio chi si è trovato impossibilitato o fortemente limitato nel proseguire gli studi in questo periodo. La solidarietà non si merita per una università pubblica, libera e di massa. Mentre sentite in sottofondo rumoreggiare gli ospiti che arriveranno fra poco, questo era il comunicato rilasciato dagli studenti di sinistra e dai collettivi che a questa sigla afferiscono. Sono il collettivo Codice Rosso, il collettivo di Scienze, ARC di Architettura, il collettivo Rosso Malpolo, quello di Ingegneria Filo da Torcere, il collettivo di Psicologia Laboratorio 15 e il collettivo Umanistico SDS. Quello che chiedono è infatti uno stanziamento adeguato e che il fondo sia accessibile a chiunque ne abbia bisogno. Quindi dopo questa prima vittoria, ovvero l'istituzione di questo fondo, è importante sorvegliare e premere affinché questo stanziamento sia effettivamente adeguato e non escludente e ancora di più non basato sul ingiusto e immeritato merito. E poi invece adesso facciamo due approfondimenti, anzi un ultimo approfondimento sulle iniziative di solidarietà in corso in questa città, in particolare quelle del sostegno alimentare. Ne stiamo parlando ormai tutte le domeniche, tranne domenica scorsa che c'era questa puntata a più voci con le nostre radio amiche e sorelle da Bologna, Genova e Roma, e parliamo delle molte iniziative di solidarietà che si stanno svolgendo in questi giorni e da molti giorni in vari quartieri fiorentini e non solo. Due settimane fa abbiamo avuto un approfondimento, un'intervista fatta al CPA e alla rete Fuori Mercato. Oggi ne avremo una invece sulle iniziative che si svolgono in Oltrarno, ma prima vorrei riportare l'appello che arriva dalla comunità delle Piagge e si chiama Spesa SOS, SOS maiuscolo Sospesa, quartiere 5 solidale. Dice questo: sostieni le famiglie in difficoltà del quartiere 5 acquistando qualcosa in più quando fai la spesa. L'emergenza coronavirus non è solo sanitaria, ma è anche economica e sociale. Per molte famiglie è diventato impossibile procurarsi anche beni di prima necessità. La perdita del posto di lavoro, l'impossibilità di svolgere piccole attività quotidiane rappresentano la perdita improvvisa dell'unica fonte di reddito per fasce di popolazione che non godono di alcuna protezione. La comunità delle Piagge sta sostenendo un gran numero di famiglie che in questa situazione mancano dei minimi diritti di sopravvivenza. Amici, mutate il microfono per favore. Possiamo aiutare la loro azione con un semplice contributo, la spesa solidale. Chi entra in un negozio per fare la spesa, no, via. Antonio Probo, devi spengere il microfono. No, io faccio fare, eh. Way on down south, way on down south, London town. Vediamo se lo ha fatto. Sembrerebbe di sì. Allora, portavo questa iniziativa dalla comunità delle piace la richiesta, in poche parole, senza starla a leggere, di consegnare presso il centro sociale Il Pozzo in piazza Ilaria Alpio, presso una serie di esercizi commerciali che aderiscono a questa rete nel quartiere 5, in particolare fra Brozzi, Peretola, Le Piagge, San Donnino, alimenti a lunga conservazione come pasta, passata di pomodoro, legumi, tonno, eccetera, o articoli per l'igiene come pannolini, assorbenti, sapone, dentifricio, carta igienica, eccetera. La richiesta è sia ai commercianti per apporre fuori dai loro negozi una scatola di raccolta, sia quella ai cittadini per fare una spesa un po' maggiorata per donare per chi appunto ne avesse bisogno. Ci sono alcuni riferimenti che si possono trovare sulle pagine della comunità delle Piagge. Ad esempio c'è la richiesta di aiuto per volontari per il ritiro di tutto questo materiale. Per questo si può scrivere alla mail oriana.senesi@gmail.com. E invece per chi volesse aderire col proprio negozio ci sono un paio di numeri WhatsApp, sono quelli di Caterina e Sandra, che sono 320-01-38762, 320-01-38762, quello di Caterina, magari ne do soltanto uno. Anche una mail, altrimenti posta@comunitadellepiagge.it. Ringraziando per la diffusione, ci è arrivata appunto questa email che volentieri riportiamo a voi ascoltatori. Fra l'altro io ho avuto l'occasione di essere presente insomma in alcune delle distribuzioni che vengono fatte ben 3 volte al giorno, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, presso il centro sociale appunto Il Pozzo, ed è davvero enorme il numero delle famiglie che hanno necessità del genere, e quindi è un appello assolutamente di umanità quello che sta facendo la comunità delle Piagge, e qua lo rilanciamo. E infine, per concludere questa prima parte di trasmissione, stiamo per trasmettere invece l'audio intervista che abbiamo registrato nei giorni scorsi, come appunto, mentre intanto parlo la cerco, due domeniche fa abbiamo trasmesso l'intervista fatta alle compagne e compagni del CPA e della rete Fuori Mercato. Vogliamo svolgere ogni settimana un approfondimento su questo. Oggi è il turno appunto del laboratorio di Laddarno e dell'occupazione di Via del Leone. Molte voci hanno registrato questo audio che ci racconta della loro iniziativa e delle loro considerazioni attorno a questa iniziativa. A differenza di come l'avevamo fatto 2 domeniche fa, direi che non è il caso di ogni volta intervenire per ripetere le domande traccia sulla quale questa intervista è stata svolta, ma la mandiamo tutta insieme, dura 9 minuti e noi ci risentiamo subito dopo aver ascoltato appunto le voci del laboratorio di Laddarno, dell'occupazione di Via del Leone e delle iniziative di mutualismo che si stanno svolgendo in Oltrarno. Cadiamo nel tranello e siamo noi ad aiutarli, perché in realtà poi è uno scambio, in effetti, mm-hmm. Perché poi queste persone basta conoscerle un po' e scopriamo delle cose che noi non abbiamo. Il sostegno alimentare di Sanfrediano è nato dall'occupazione di Via del Leone insieme al laboratorio di Laddarno e con l'importantissimo supporto di Fuori Binario. Dopo 3 settimane che stavamo facendo insieme anche agli amici dei Nidiaci e ai Bianchi di Santo Spirito un servizio di consegna a domicilio della spesa, dei farmaci, di pagamento delle bollette, insomma una salvaguardia per tutte quelle persone messe più a rischio dalla pandemia. Si è trattato di salvaguardare i nostri parenti, i nostri amici, le persone con cui abbiamo portato avanti le lotte per l'AS di Santa Rosa, che in un quartiere come Sanfrediano, che ha una particolare insomma curva demografica, come sempre più hanno i quartieri del centro, è ricco di anziani e quindi larghe fasce della popolazione erano effettivamente messe a rischio dal Covid. Stavano scoppiando sempre di più situazioni di vera e propria marginalità sociale, in cui persone che fino a qualche settimana prima erano riuscite tra espedienti e sacrifici a portare sempre un piatto in tavola, a trovare i soldi per la scuola dei figlioli, l'affitto e le bollette, si ritrovavano adesso come si suol dire col culo per terra. Abbiamo convertito il nostro impegno lasciando la chat di aiuto agli anziani, che ormai contava più di 60 volontari, per impegnarci in un sostegno alimentare con consegna di pacchi con gli alimenti di base che bastano più o meno per una settimana, 10 giorni, diventando così un punto di riferimento importante per tutto l'Oltrarno, da più o meno Piazza Batoni fino a Ponte alle Grazie. In base alla mia esperienza, io ho ricevuto il contatto di tantissimi, soprattutto di nuclei familiari, in questo caso soprattutto stranieri, di origine straniera, anche se hanno, spesso sono in Italia da più di 20 anni, hanno anche i figli che magari sono nati in Italia, però non sempre, hanno anche di solito il permesso di soggiorno. Però, come sappiamo, in Italia non è semplicissimo, diciamo, avere la cittadinanza e tutto, quindi vanno sempre incontro a problemi legati al fatto di non essere pienamente italiani. Mentre invece, per quanto riguarda le persone singole, quello che è sembrato a me è che le persone singole che hanno contattato sono per lo più italiani e pensionati o comunque di età più avanzata che hanno avuto problemi nel conseguire, nel, cioè nel ritirare la pensione, che magari arriva in ritardo, comunque soffrono molto della solitudine, anche semplicemente, oltre che di problemi economici, che molti anziani abbiano diciamo, vissuto questa cosa in un modo molto pesante. Ci sono sì delle misure che sono solo per determinate fasce di popolazione, ne escludono tutte. Tantissime altre, il contributo affitto che è stato fatto dal comune, che sarebbe un bando straordinario, che però non ha previsto rispetto al bando che viene fatto ogni anno, non ha previsto dei soldi in più rispetto a quello che viene fatto ogni anno. Quindi questo ovviamente davanti a un innalzamento della richiesta non risponde al bisogno che c'è. Quindi le misure evidentemente non sono abbastanza. Sul piano delle relazioni con il territorio, io credo che questa lotta che abbiamo portato avanti abbia funzionato bene, nel senso che ci siamo inseriti, come diceva prima Cosimo, all'interno di relazioni già consolidate, di un tessuto di associazioni che ha portato avanti la loro dimensione, il loro modo di agire, e noi ci siamo mossi parallelamente con un nostro modo di agire più, forse più radicale. Però ecco, in continuità, e io credo che questo comunque abbia un valore. Come a molti, la pandemia ha obbligato a cambiare abbastanza, insomma, le proprie prospettive, e io spero, ma penso che un po' ci abbia fatto anche bene, almeno al laboratorio di Laddarno, sono sicuro, perché ci ha spinto a fare qualcosa di più concreto, di più vicino alle esigenze di quelle persone che noi teoricamente vorremmo aiutare, ma che poi forse nella pratica quotidiana dei nostri movimenti, almeno di quello che facevamo prima, forse non riuscivamo a raggiungere così bene. Questo non solo rispetto a quelle persone, alle famiglie di cui parlava Flora, che siamo riusciti anche nel nostro piccolo ad aiutare, ma forse di più, o comunque anche con quelle persone, con quei ragazzi, con le ragazze che magari hanno sempre avuto un po' di simpatia per i nostri ambienti, ma che non riuscivano a collaborare in maniera più pratica, ecco. E questo un po' riporta sul piano la dimensione del, o comunque la parola, l'assistenzialismo. Perché non facciamo, perché non ci sembra di fare assistenzialismo? Se noi ci consideriamo un'istituzione o comunque un ente che eroga un servizio in qualche modo, è chiaro che poi si vada in quella direzione lì, anche con le parole, il lessico, tutto un po'. Cioè, noi abbiamo fatto questa cosa che può sembrare assistenzialismo a primo avviso, ma perché ha una progettualità, diciamo, cioè perché ha un fine, che non è quello di finire nell'assistenzialismo, che è un mezzo per arrivare comunque a contattare delle persone, entrarci in contatto, conoscerle e anche cercare di renderle un po' più consapevoli di quello che stanno vivendo e delle possibilità di cambiare la propria situazione. Si è visto come molte persone dopo essere state aiutate hanno deciso loro in prima persona di dare anche loro il loro appoggio e aiutare cioè, in prima persona. Infatti. Cioè, si sta dando un esempio e facendo capire alla gente che cioè, le cose si possono risolvere anche se non ti danno risoluzione in mano. Abbiamo cercato di dare insomma l'esempio di come la lotta, che attraverso la lotta non si faccia assistenzialismo, almeno se questa viene portata avanti attraverso un'attenzione specifica nella costruzione di relazioni solidali, di reciprocità e di riconoscimento di persone che normalmente sono relegate ai margini della società e anche, soprattutto, la possibilità che queste persone partecipino al processo, alla lotta che viene portata avanti. Ecco, da qua, da far partecipare, dalla collaborazione di queste persone ai turni del lavoro dei pacchi e al sostegno attraverso lasciare del cibo e cose di questo tipo. Ad organizzare un'assemblea o anche solo una cena o stringere ancora meglio queste relazioni, ecco, da qua, dai pacchi a questa assemblea, il passo è breve. Ecco, parlare di prospettive future è sicuramente complicato perché nessuno di noi ha la soluzione in tasca. Tuttavia, siamo certi che sia necessario un cambio di passo. Adesso si apre la fase più dura della crisi, quella in cui i padroni, i ricchi, cercheranno di far pagare a noi, alle classi popolari, lo scotto di questa crisi. Adesso sta a noi attivare, allargare e infittire sempre di più quelle reti che negli anni abbiamo coltivato e che abbiamo rinverdito in questi ultimi mesi di solidarietà per unirsi in poche vertenze comuni, chiare, la precarietà sul mondo del lavoro, in particolare il lavoro nell'ambito turistico, il lavoro nero e la questione abitativa che abbiamo visto essere anch'essa estremamente precaria nelle nostre città. Vi salutiamo e vi ringraziamo ancora per questo spazio e per seguirci potete farlo dalle pagine Facebook dell'Occupazione Via del Leone e del Laboratorio di Laddarno. Come anche dal sito No Blogs dell'Occupazione Via del Leone 6062 o dall'omonima pagina Instagram. L'autorganizzazione Come mezzo e come fine. ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? E rieccoci in diretta. Beh, ringraziamo tantissimo le compagne e compagni del laboratorio di Laddarno e dell'occupazione di Via del Leone per questa intervista che non era che la seconda di una serie. Nel frattempo c'è chi sul pad scrive: Evviva, è una gioia sentire parlare di mutuo appoggio invece che di mero assistenzialismo. Beh, non posso assolutamente che condividere e mi è anche sembrato che sia un qualche cosa di comunemente inteso da tutte o almeno dalla gran parte delle realtà che stanno svolgendo in questo periodo iniziative di sostegno alimentare. In tal senso, magari rimando anche alla quarta risposta, alla quarta domanda che era stata fatta alla rete Fuorimercato 2 settimane fa, è già disponibile insomma sul sito di Radio Wombat. Abbiamo proprio chiesto questo e anche da parte loro mi era sembrato arrivasse una risposta assolutamente consapevole e nella stessa giusta direzione. Prima di concludere questa prima parte di trasmissione ricordo soltanto alcuni riferimenti. Il primo è la mappa delle realtà del sostegno alimentare che è pubblicata sul sito della Polveriera, la polveriera spaziocomune.noblogs.org. C'è una mappa fatta su OpenStreetMap che raccoglie in colori diversi, è fatta molto bene tutte le iniziative di sostegno che si stanno svolgendo in questo periodo. Altri riferimenti invece sono per quanto riguarda la manifestazione che dicevo di martedì indetta da Cobas e USB, ci sono una serie di pagine social, ahimè, che comunque danno buona informazione su questo e sono accessibili anche per chi un account Facebook non lo ha. Quella di martedì la si trova cercando Biblio Precari in piazza, là ci sono tutte le informazioni del caso. Le informazioni invece riguardo all'iniziativa di sostegno per Frammenti e Trame si trovano sull'omonima pagina Facebook, appunto Frammenti e Trame, così come Studenti di Sinistra, il nome della pagina sulla quale andare a seguire gli sviluppi della vittoria dello stanziamento del fondo che è stato ottenuto dai compagni di SDS. Va bene, eccoci qua. Forse è il caso di cambiare base a questo momento, anche perché facciamo un po' l'incontrario di cosa succede in Berlinguer. Ti voglio bene, e adesso finito il culturale principia il ricreativo. And the Sultans. Yeah, the Sultans play green. Pa pa pa pa pa. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Ho picchiato la testa, lasciatemi stare, non lo vedete, non sono più normale. Ho picchiato la testa, lasciatemi dormire, avvertitemi quando. Va bene, vediamo se funziona tutto. Antonio Probo, sei connesso? No. Sono malato, tutti mi tormentano, è perché sono sbagliato, tutti ne approfittano. Olè, riproviamoci. Antonio Probo. Allo? Eccolo! Senti il sottofondo? No, non lo senti? Ho picchiato la testa, che ne dici? Va bene? Sì, l'ho sentito, lo sento dall'altro dispositivo, perché noi ricchi abbiamo più dispositivi. E per questo sei arrivato in ritardo. Benvenuto, sei solo Antonio Probo? Allora, in realtà non sono solo, perché come sai, oltre quella che è la nostra percezione, ci sono creature al di fuori dell'umano. Certo. No, va bene, iniziamo alla grande, va bene. Allora, se sei d'accordo io metterei subito una canzoncina, così, no, senza così, non ha nessuna utilità pratica, però ci sta bene, secondo me. Mi hai dato la solita lista di canzoni con mio disappunto, nemmeno una in italiano, però va bene, dai, forza. No, ma in realtà non è vero, basta... Basta che le leggi in italiano e sono italiane. Ah, va bene. Allora, vediamo un attimo la scaletta, che cosa abbiamo, aspetta. Vediamo. Sì, Cassius, ad esempio, in italiano lo posso leggere come Cassio. Latino. Cassius, latino, è vero. Ricordiamo che infatti l'italiano altro non è che latino in una fase tarda del suo sviluppo, come diceva il maestro Penna. La Penna. Esattamente. Va bene, mettiamo Cassius, vai. Sì, va bene Cassius. Vai, Cassius. Cassius, grande pezzo di French Touch. Ce la godiamo tutte perché oggi sarà una domenica molto French Touch. Sì, non abbiamo dubbi. Via. I feel like I wanna be inside of you when the sun goes down, yeah. Oh my heart, taking me back to blue, falling into my own senses. Another night, another day, it's better this way. Oh my heart, only you can know how I feel. Every day is an ordeal to get by. Melancholy, ever so broken skin, mercury rising. I feel like I wanna be inside of you when the sun goes down. I feel like I wanna be inside of you when the sun goes down. Ed eccoci tornati. Allora lascio la stessa base di prima perché mi sembrava alquanto adatta. Vediamo, regolo un attimino i suoni adesso che ci sono più voci. Ma c'è anche il maestro con noi, maestro. Ciao amici. Maestro, bentornato. A grande richiesta il maestro, a differenza che Probo, che è tornato giusto perché sei imposto. Semplicemente soldi, cash. Volevo dire una cosa, sì, se l'italiano altro non è che il latino in una sua fase tarda, sì. Probo altro non è che una persona normale nella sua fase tarda, direi. Sembra più che legittimo. Grottani, mi devi 10 euro per questa battuta. È scritto a te, ti paga. Va bene, Antonio Probo, ricorda subito come si fa a entrare in contatto diretto con noi, dai. Allora, senza dubbio, dovete, se appartenete al pianeta Terra, sì, perché noi siamo qui in qualità di alienologi, soprattutto io, sì, se appartenete al pianeta Terra, dovete, potete o chiamarmi al 329-9806-731, no, ho detto il numero in realtà di mia mamma che saluto da casa. Buonasera, signore. Oppure, buonasera signori, no, andate semplicemente sul sito che più frequentate, quindi amazon.com, sì, ordinate sì, uno di quegli strumenti tecnologici che insomma, normali, no? Tipo vibratori, quello che volete. Vi connettete sì, al Wombat e potete tranquillamente insultarci live sul... Come lo chiami te? Il tap? Certo, il tap pugliese. Bene, potete, tutto molto potete, chiaro, molto semplice, come sentite. Entrate pure in diretta con noi, via! Va bene, riproviamoci, facciamo i seri. Antonio Provo, qual è l'indirizzo del pad sui quali i nostri ascoltatori ci possono scrivere? www no, senza www. Riprova. Cucucu. Forse pad. Cucurucucu. Pad è un buon inizio, va bene. Pad potrebbe andare. Pad. Punto. Benissimo. Pad. Punto. Vabbè, allora se lo dici te, dillo te. Rise up. No, allora c'è un indirizzo accorciato che è Rafanu con la U, che è il nome di una pianta sarda, lo sai. Rafasiberia.com. No, quello è l'indirizzo mail. Allora, l'indirizzo mail è postawombat@insiberia.net. In Siberia. Non fare finta adesso. Mentre il pad è rafanu.vado. Rafanu.pado.li. Sì, certo. Oppure cliccate direttamente su Diretta Wombat dalla home, dalla prima pagina del sito. Comunque ti trovo sempre più impreparato. Non studi, Antonio Probo. Allora, ragazzi, vostra operazione di marketing è quella di far ricordare le cose anche ai deficienti. Sì. E io sono qui per testare, ok? Non funziona, a quanto pare. Nel senso proprio di no. Musica. Va bene, Antonio Probo, mi sono preparato un sacco di succose notiziuole per oggi, un sacco di succose notiziuole. Inizio io, inizi tu? Voglio portare un sacco di cose all'attenzione dei nostri ascoltatori oggi. Parliamo di me? Sì. Ma, no, io in realtà, come sai, qui è una situazione sempre molto live, perché noi qui non improvvisiamo, cioè noi improvvisiamo tutto e non scriviamo nulla, non siamo cioè, alfabetizzati. Qui alla segna stampa le notizie arrivano e noi le diamo nude, certo, crude e pure. E purissime. Va bene, eccomi. Inizio io allora. Ce n'ho una parecchio bellina che è arrivata fresca dal comune di Bugliano. Te lo sai dov'è il comune di Bugliano? Comune di Bugliano? Sì, provincia, sì. Ad Bologna. No. Provenza ad Bologna. Sì, Provenza, in Provenza, il comune di Bugliano, comune provenzale di storica tradizione italiana, che ha vietato di usare la parola resilienza. Lo sapevi? C'è un'ordinanza che è la numero 4734 bis del 2020 che ha detto questa cosa. Allora, attenzione. Considerato che la quarantena causata dall'emergenza Covid ha messo a dura prova la pazienza di tutti, considerato che il sindaco ha avuto numerose lamentele da parte della cittadinanza, considerato che è necessario che i cittadini imparino a usare il dizionario dei sinonimi, il sindaco ha emesso un'ordinanza comunale che vieta l'uso della parola resilienza, sia in forma scritta che orale, su tutto il territorio comunale. Ai trasgressori verrà comminata un'ammenda di euro 25. Cos'è un'ammenda? La multa! Allora, è in Australia. È in provincia di Pisa, il comune di Bugliano, eh? È in provincia di Pisa. È vero, è una roba toscana, quindi questa cacata? Cioè, come no? Siamo fieri di tutto ciò noi. Meraviglioso. Va bene, ancora una notizia da parte mia, ancora una notizia da parte Aspetta, aspetta, è arrivata. Scusa Mario, è arrivata un'ansa. Giusto, è arrivata un'ansa. Devono avere priorità. Un'ansa sul calcio. Molto interessante. Non so se può interessare i nostri telecardiospettatori. Certo. Allora, calcio, 10 anni fa l'Inter vinceva il triplete. Mario, spiega cos'è il triplete. Non ne ho idea. È una tripletta fatta da un francese. Allora, il triplete, tra l'altro, non è una parola francese, ovviamente. Triplette. Credo sia sardo. Sì. L'Inter vinceva nello stesso anno, come sanno i nostri cardiospettatori, il campionato di Serie A, poi quale altre grandi due competizioni? Saranno Champions League. Sì, anche secondo me Champions League. Bravissimo, Champions League, bravo maestro Ottani, direttamente all'iperspazio. E l'ultima? Direi torneo di Burraco. Burraco, bravissimo. Di grotta a mare, ovviamente. Torneo di Burraco di grotta a mare. Ovviamente parliamo la Coppa Italia, ragazzi, questo è un tema serio. Allora, quindi calcio 10 anni fa, l'Inter vinceva il triplete, nello stesso anno Diego Fusaro aveva 26 anni e citava Platone in un video su YouTube. Comunque triplete è portoghese e si pronuncia tripleci. Non ha senso questa cosa. Andrea Ottani, puoi andarti. Maestro. Tocca a me. Allora, la notizia qua ha a che fare con... No, ce n'è un'altra prima. Allora, la questione è questa. Il padrone di Amazon, chi è proprio il padrone di Amazon? Uno ricco. Sì, molto. Si chiama infatti Jeff Bezos. E pare non è che un nome da ricco, tra l'altro. Non ancora, ma da oggi sì, perché è diventato il primo trilionario della storia dell'umanità, del mondo, dell'universo. Il primo trilionario. Allora, se dovesse... Posso fare un piccolo appunto? Prego. L'universo, caro Mario, come ti spiegherà poi il maestro Ottani, sì, è conosciuto soltanto per un 10%, quindi queste sono illazioni. Anche questa mi sa che il 10% è un'illazione. 7%. Sono quei numeri così, del cervello usiamo solo... 6%. 3%. Allora, il signor Jeff, lo chiamiamo così, sembra più affettuoso, in realtà lo continuiamo a odiare con tutti noi stessi, ha da solo il PIL di 179 paesi sommati fra di loro e più di quanto detengono tutto assieme 3,5 miliardi di persone, ovvero il 44% di tutti gli esseri umani viventi oggi. Il signor Jeff Bezos ha da solo quanto ci hanno... 44% di tutti gli esseri umani viventi oggi. Mi immagino una vita triste, sì. Sì, in realtà sì, davvero. Non sono più normale, non sono capace. Allora, sono pieno di notizie, ne do subito un'altra, però la devo aprire. Aspetta, scusami Mario, ci sarebbe una news da Napoli fresca. Fresca come le cozze, capaccia leg e vai, andiamo bene. Allora, notizia freschissima, infatti parla di ieri notte. I napoletani si svegliano tardi notoriamente, quindi... Allora, Napoli ieri notte, lungomare emerge in linea bloccato causa assembramenti. Gli agenti di polizia hanno sparpagliato i presenti con un fitto lancio di ricevute fiscali e fototessere di Saviano. Si sa, no? È nota l'allergia per le ricevute fiscali, le tessere di Saviano, sì. Le foto tessere. Va bene, e invece io voglio darti una notizia sugli anagrammi. Allora, ho già ricordato in... Notizia, è l'anagramma del tuo nome. Sì? E quindi Tiziana? Qual è? No, Tiziano. Tiziano. Questa è una grande cheat di Tiziano Ferro. Notizia è l'anagramma del mio nome. Del mio nome, scusami, no, ho detto del tuo, pardon. Altissime citazioni. Allora, io voglio invece portare... Avevo già portato la notizia che l'anagramma di 2020 è multe e divani. Bellissima, cioè, bellissimo. Oggi invece ho scoperto che l'anagramma di Covid-19 è vendo vaccino. Sì, vendo vaccino. Tra l'altro c'è anche chi mi sta segnalando proprio ora un post Facebook che fa notare come l'anagramma di Giacomo Savonarola è saliva al rogo romano. Bravi, subito sul pezzo siete. Chi è Giacomo Savonarola, tra l'altro? E cos'è un rogo? Anagramma di Goro? Che è il cattivo del celeberrimo film Mortal Kombat. Quello con sei braccia, sai, c'è presente, vero? Grande Marco, mi hai aspettato. Su Mortal Kombat sono fortissimo, maestro. Grande. Le so tutte Mortal Kombat. La mia preferita era Sonya Blade. Mi manca. No, come? Pornostar? No, no, dai, era numero uno. Poi alla fine si fidanza con Johnny Cage. Era la mia guerriera preferita. Non è una pornostar, allora. No, che io sappia almeno. Era una militare in realtà, eh? Era una soldatessa. Ah, sì, sì, sì, ora ricordo. Ah, numero uno, dai. Allora, è che devo posare di volta in volta il microfono, eh? Quindi faccio salire un po' la musica e vado a dare un'altra notizia. Va bene, non mi riesce a scaricare. Quindi facciamo così, mettiamo una canzone. E poi, no, ce l'ho. Allora, Bill Gates vuole oscurare il sole per fermare il riscaldamento globale. È una notizia vera. Il signor Bill Gates ha trovato questo sistema, lo sta sperimentando assieme a un team di ricerca americano che vorrebbe mandare praticamente questa polvere gigante di carbonato di calcio nella stratosfera per bloccare buona parte dei raggi solari. Lo dovrebbe fare lanciando questa sonda dal Nuovo Messico, dal New Mexico, che si chiama Scopex, che dovrebbe rilasciare nell'atmosfera... Come si chiama la sonda? Sì, si chiama Scopex, sì. Ma abbiamo parlato di una sonda che si chiama Scopex. Sì, succede questo, sì. Tipo i Simpson, è presente? Che nei Simpson fanno il signor Burns fa il cerchione là per bloccare il sole. E poi Meg, come si chiama? Maggie, la bambina, lo uccide il signor Burns. Ci avete presente, vero? No, io non penso che si chiami Maggie. Si chiama Maggie. Ah, Maggie, la, sì, la bimba. Ok, sì. Tra l'altro in 20 stagioni dei Simpson ci avete fatto caso come resti sempre così piccola quella sì, persona? Boh, solo lei, non Bart, anche Lisa, no no. In una puntata dei Simpson spiegano perché. Sì? Cosa dicono? Sì sì, giuro, praticamente gli danno delle pillole che li mantengono per sempre così e li fanno anche malissimo, una scelta della produzione. In che anno è nato i Simpson, bro? Vediamo se... 1988, aprile. Quasi. Ma è vero? No, di un anno quando, è sbagliato, di un anno solo. No, 1989. Sono fortissimo, se dico cazzate, poi c'ho ragione. Sì, come no? È come quando dicevo che il dentifricio pasta è il capitano e tutti mi prendevano per il culo. Dicevo, guarda ragazzi, questo è un dentifricio fascista. E poi uscì fuori Salvini che era il capitano. Bam. Anticipo di 10 anni. Follia. Via, canzone, dai, canzone, così apro intanto un po' di notiziole ancora e vediamo se arriva qualche altra ansietta. Che canzone scegli? Dimmi i titoli. Allora, guarda, te lo dico io quale mettere. Sono Cristina D'Avena e lasciamole stare. No, vabbè, lascia stare. Allora, ti dico io quale mettere. C'è un pezzo di Monsieur Wiseau, detto anche Mr. Oizo, vogliamo chiamarlo sì, come vogliamo. Ok, allora, super pezzo che tutti ci ricorderemo per una antichissima, cioè tutti noi nati negli anni 2000, perché io ho 20 anni, non so, buio. Ok. E ci ricorderemo per una bellissima pubblicità, mi sembra tipo di una chewing gum della Vigors, non so. E sì, c'era questo pupazzo giallo. Ah, sì. Era dei jeans. No, bravissimo. Sono... erano dei jeans. In macchina, ti ricordi? In macchina. Sì, sì. Ecco, come no? Ecco, Monsieur Wiseau è il suo simbolo di questo disc jockey francese. È appunto questo pupazzo che non si fa troppo vedere in pubblico. Pezzone incredibile. Tutto French. Tutta French. No, vabbè, non tutto French, però quasi, ma soprattutto tanto tanta elettro, tanta tanta elettro bamba, yeah. Yeah. Bella, bella. Cioè, e dire che ti sei pure vantato privatamente nella nostra chat privata dicendo Mister Oizo, pezzone incredibile. A noi piacevano più quelli della settimana scorsa, quella sigaretta mi era piaciuta parecchio. Dobbiamo svecchiarci, per questo mettiamo solo musica degli anni 90. Allora, vi faccio sentire una meraviglia, dai, vi faccio sentire una meraviglia, sì, tutti all'ascolto, attenzione. Ci sono dei momenti storici in cui una nazione non può restare a guardare. Quando tutto crolla, l'ultima frontiera della democrazia è il popolo. se non cambiamo le cose adesso, nessuno verrà a farlo per noi. Non verrà nessuno a salvarci. Adesso tocca a noi. Andremo a Roma a presentare il conto, perché la nostra libertà non è in affitto e il nostro paese non è in vendita. Credono di poterci trattare come bestie perché siamo buoni, ma hanno fatto male i conti. In piazza ci saranno professionisti, operai, avvocati, studenti. Ci saremo noi. Ci sarà l'Italia, quella che ha deciso di non arrendersi, quella affamata di libertà. Non possiamo lasciare i nostri figli in questo inferno. Non è possibile. Adesso basta. Si cambia musica. Allora, l'avete riconosciuto? No, non l'avete sentito voi, è vero, perché non lo potete sentire. No, io l'ho sentito. Chi era? Allora, era il governatore della Campania. Ma che, molto meglio. No, chi era? Era il generale Pappalardo. Ah, grandissimo. Grandissimo. Comunque a me piace tantissimo la musica che c'è sotto, potrei averla composta io. I Blues Brothers. I Blues Brothers oppure Mr. Oizo ancora, che fra l'altro il buon Steamboy ci dice invece Pezzone, è stato apprezzato. Pezzone, bravo, bravo, Pezzone ragazzi, non si tocca a Monsieur Oizo. Ma no, com'è il Blues Brothers? Non capisco. Cosa stai sentendo in sottofondo adesso? Quella sua dici? Quella di Pappalardo? La canzone, esatto, la musica che c'era sotto. Ora vedo se nei crediti c'è scritto chi l'ha composta. Comunque ha dato vita a un movimento, si chiamano i Cilea e Arancioni. Il sottotitolo è Si cambia musica, c'è una bandiera italiana nel suo logo e una chiave di violino. Bellissimo, quindi chiama forse tutta l'Italia. Forse è la prima volta in cui sono gli italiani a rubare qualcosa ai francesi. I Gilet, vuoi dire? Sì. Non mi interessa, dicevo. Allora, a parte queste cazzate del maestro, volevo fare un piccolo annuncio, perché sì, davvero c'è la possibilità... No, era interessante. No, c'è la possibilità che a un certo punto voi dite: ah, provo, cosa ne pensi? E non rispondo più. Allora, sto esattamente in questo momento, non è uno scherzo, posso anche mandare delle foto alle signorine che lo richiedono. Sì, sto aprendo, quindi per mostrare, ecco, la temerarietà della mia domenica sera, un ride anti-zanzare night and day. Sapete, di quelli che si collegano alle scene col fornelletto, tipo mezzi elettrici, non si è mai capito che cosa c'è dentro. Ecco, ora mi sto per accingere ad aprire, ecco, lo sentite, la bustina, dove c'è appunto quella cosa che poi ucciderà poi le zanzare. Ecco, potrei svolgere un momento all'altro, quindi la mia trasmissione potrebbe anche finire qui. No, ma è un giusto tentativo da fare, comunque vale la pena rischiare la vita per le zanzare, contro le zanzare. Assolutamente. Va bene, no, però mi interessava moltissimo stare un attimo su Cilea Arancioni, perché c'è questo video, no? Chiama tutta Italia alla dunata a Roma, il generale Pappalardo, il 2 giugno. Fra l'altro c'è questo video pazzesco, cercatelo, si chiama Cilea Arancioni. C'è lui in giacca e cravatta insieme a una serie di persone vestite da operai, con i Cilea Arancioni e la mascherina. Il generale non ce l'ha, il grande generale. E sono interessanti anche i commenti che fra l'altro sono arrivati sotto al video YouTube in cui lui ha diffuso questa iniziativa. E sono giusto così, ne leggo proprio alcuni perché sono decine. Per esempio, forza generale, italiani sveglia, oppure svegliatevi, non accettate il comando del padrone, oppure sei un grande, verrei anch'io a Roma con voi solo che sono disabile, oppure giù governo parasita, oppure questa è bellissima, volete la libertà ed il rispetto dei vostri diritti, ma non siete pecore. Toglietevi le mascherine, ricordate che siete esseri umani. La museruola è il marchio del prigioniero. Dimostra la vostra debolezza e il servilismo al loro potere illegittimo. Ce ne sono tantissimi. Per esempio, se ne devono andare tutti in galera e buttare via la chiave. Questo è strano, non si capisce nemmeno bene. Oppure... Ma noti che non c'è mai un riferimento. A chi si riferiscono? Al generale. Ai loro, dici. Al grande loro. Sì, c'è sempre un grande loro. Il grande loro, il grande collettivo dei loro. Cioè, bello che questa... Cioè, se no poi magari ce l'hanno con i vasai, che ne so. Mi piacerebbe. se ne devono andare tutti in galera e buttare via la chiave. No, questa l'ho già letta. Cioè che freghiamoci delle limitazioni di maschere e distanziamento, come se ne sono fregati loro per cantare Bella Ciao ed accogliere la messaggera della taglia gole. Chissà che cazzo dice questa. Se, sono i cantanti, quindi? Chi, non l'ho capita. Ah, Bella Ciao, sì, forse. Se aspettiamo che ci concedano la libertà e le parole, poi anche qua, tanto vale lasciarci mettere le catene. Questa è bellissima. Sono d'accordo. Dove si comprano questi gilet, scusa? Dice li compri in autogrill. Però l'importante è che te li metti per andare a Roma il 2 giugno dietro alle schiere del generale Pappalardo. È un grande assalto a Montecitorio, grande assalto. Invece la cosa fighissima è che se una persona qualsiasi indossasse un gilet arancione del genere avrebbe libero accesso a qualsiasi spazio all'interno del globo, pensateci. Sono state fatte anche già operazioni di questo tipo. Non so come commentare, io provo... È vero, allora io sono il grande ispiratore di questa roba, è vero, lo può dire Andottani, posso anche spiegarlo. Prego, grazie anzi. Ma no, semplicemente qualche tempo fa dissi appunto, esposi questa mia teoria a loro, i maestri Ottani, e dissi, che può confermarlo visto che è sia qui con noi in radio che in una stanza a fianco. Tra l'altro hai bisogno, vuoi del vino Andrea? Sì, magari. È quasi il tuo momento, te lo maestro. Posso... No, comunque, dissi, guarda, secondo me la forza che hanno questi operatori stradali, e poi senza fare del macismo, però belli muscolosi, sudati, a volte, ecco, depilati nei posti giusti. Sì. È questo vero, questo macismo si chiama, è questo vero. Posso continuare? Quindi ecco, magari d'estate con questo asfalto rovente, questi fumi, noi che magari, esatto, e noi donzelletti che magari vagavamo in Viale Campania. Dei Mille o nei boulevard di Nuova Delhi, ecco, per le sagre del Gennargentu, e noi a vedersi noi cotesti uomini. E abbiamo sempre provato una... Ecco, secondo me il paragone giusto potrebbe essere un po' noi Incas che ci vediamo davanti questi dei conquistadores colonialisti, capito? E quindi rimaniamo abbaiati come abbaierebbero i cani, no? E a che cosa voglio arrivare? Oddio, grazie, sì, per favore. Il grande potere, l'aura di questi, l'aura nel senso senza dell'apostrofo, sì. Esatto, no, l'aura, no, povera Laura, no, l'aura, proprio l'aureola, diciamo, di questi uomini, il loro potere ignifugo, tra virgolette, nel senso che possono andare dentro ogni... Possono incendio sociale, di e... attraverso l'inferno, sì. Capito? Possono fare serie su D-Max che noi non abbiamo neanche il coraggio di inventare, possono entrare dentro i musei, possono cambiare le carte in tavola, in una tavola piena di carte, e che magari c'erano dei segnaposto ben precisi e delle carte, si giocava un gioco e loro possono cambiarle. Posso interromperti? Queste regole. Il maestro Tani l'ha fatta sua questa posizione. Sì. Posso interrompere? Posso sì, interrompere? Per favore. Ti prego. Praticamente c'è un video su YouTube, cercatelo, lo trovate, di questo tizio, penso sia realizzato da Vice in realtà, che praticamente si fa tipo un botto di festival sparsi in Europa, entrando gratuitamente e avendo addosso solo un gilet arancione e una walkie-talkie. Ah, perché lui si piazza queste cose addosso, la gente lo piglia per uno dell'organizzazione e quindi va dove vuole. Esatto. Esattamente, e poi è quello poi, che dicevi maestro troppo, Ottani, vero? Confermare il fatto che io questa conversazione con te l'ho avuta almeno un anno prima? Sì, direi nel 1980. Due. Esattamente, e non solo, e ricordiamo anche, caro maestro, e ricordiamo anche a Mario e agli spettatori. Grazie. A casa, che due anni fa... Ascoltatori si dice. Vi ricordate, si chiama cardiopatori, si dicono, ai cardiologi, ai virusologi a casa, ricordiamo che, vi ricordate... voi insomma in area fiorentina di quell'artista che mi metteva come comunque il nome polacco che potrebbe essere tipo Topolino o Spider-Man, cioè irricordabile, ecco, che aveva messo in zona Santa Reparata, tutti i dollaroni. Ecco, sempre ah, lui. Sì, che poi, quello che ha poi fatto casino alla mostra della... Bravissimo. Che spaccò quel quadro, come si che chiama? Tra l'altro io non c'entravo Serpa. Nulla. Alla Abramovic. Alla Abramovic, sì. No, non Alan Abramovic, Marina Abramovic. E quindi, tra l'altro, ecco, quel quadro ci tengo, visto che le indagini stanno andando avanti, non gliel'ho dato io, non ho finanziato alcunché, non precisiamo, c'entro nulla. Precisiamo, ero tra l'altro dietro l'angolo, quindi non potevo assolutamente centrare. Ecco, lui stesso, ma ti nudo, ricordi? Ma... No, io ero nudo, sono tuttora. No, lo stesso lui, costui polacco artista, un anno fa... imbrattò in Piazza della Signoria questa tartarugona gigante, mi sembra, non so se ve la ricordate, che non c'è. No, non c'è, perché la cambiano ogni 6 mesi diciamo l'opera d'arte contemporanea nel centro, e ci andò a, tra virgolette, deturpare o migliorare per i contemporaneisti questa opera, vestito proprio con un gilet da arancione. Colonialista, conquistato, giallo, in realtà giallo, però comunque è lo stesso. Direi un anticipatore, pensate, quindi, un precursore, un avanguardista. Io anticipai questa sua mossa parlando al maestro Tani, dicendo: ma ti rendi conto che noi potremmo indossare queste cose e potremmo fare tutto quello che vogliamo, però non vogliamo. Si è messo a verbale, soprattutto ti eri spiegato bene, avevamo capito bene, grazie proprio. Allora, c'è cioè, sì, immagino dici per il paragone sulle carte in tavola. Sì, quello è soprattutto stato una grande è stato... mossa poetica. Sì. Sei un artista, sei. Allora, c'è chi sospetta che Pappalardo abbia messo su un'azienda di produzione di gilet, una fabbrica di gilet arancioni. Può darsi, in effetti non lo escluderei per niente. Però cosa ho pronto qui? Ho pronto un altro articolo, perché poi vogliamo arrivare dritti dritti verso le stelle, andare dal maestro Ottani. E allora, Antonio Probo, io ti voglio raccontare almeno una cosa, e una te la voglio chiedere a te, perché c'è chi era, anzi ti dico già cosa, così ti prepari, perché c'è chi era rimasto insoddisfatto la settimana scorsa dal tuo commento sul cigno di Calenda. Posso un attimino, sì, poi no, cigno di Calenda, perché da, sarebbe arrivata un'ansia di non una voce qualunque, un tale Maurizio Gaspari, non so se vogliamo leggere o possiamo rimandare, non è un problema. Non la rimandiamo assolutamente. Maurizio Gaspari ha detto: riflettiamo sul ruolo degli editori. Detto da uno che non sa leggere, insomma, è una roba che penso che non andava passata in radio, ecco. Cioè, riflettiamo così o ha dato delle indicazioni verso... No, era... lui ha detto riflettiamo sul ruolo degli editori. Riflettiamo. Fatto anch'io, ho riflettuto anch'io, e adesso invece vi voglio raccontare di un sindaco... Però te preparati su Calenda, perché gli ascoltatori sono insoddisfatti dalla tua notizia. E l'altra volta ci hai detto soltanto che hai fatto la foto col cigno. Io vorrei sapere se ci sono nuove. Ad esempio, l'hai vista la questione della Fiat? Come si è battuto il compagno Calenda? Che guerriero, l'hai visto? L'hai visto? Allora, compagno Calenda? Me l'hanno raccontata in realtà, ma ancora devo vedere questo video meraviglioso che mi hanno detto. Io su Calenda vado molto, molto, molto piano. La tocco molto piano, lo sai. Sì, è giusto, è come si deve fare. Però prima andiamo in Perù. Andiamo in Perù, c'è questa notizia, l'hanno riportata diversi quotidiani, io la prendo giusto per sceglierne una a caso, dal Messaggero. Il titolo è questo: coronavirus, Perù, sindaco evade dalla quarantena, si finge morto in una bara per nascondersi dalla polizia. Allora, la faccio veloce, è successo questo. Il sindaco si chiama Jaime Rolando Urbina Torres, è il sindaco del distretto di Tantara, perché in Perù finiscono tutte le cose con l'accento. Ha lasciato... Puoi ripetere il nome, per favore? Certo, segna, però questa volta. Jaime Rolando Urbina Torres. Bene? Detto Rolando, vendeva birre per caffè Santa Lui Croce. È diventato sindaco di Tantara una volta ritornato in Perù. Grande Rolando, insomma. E ha lasciato il suo isolamento per andare a trascorrere una serata in compagnia di amici ed alcol, non vendendo, ma consumando questa volta. Però cos'è successo? Che ha fatto troppo casino. Siccome c'è quarantena dura in Perù e una serie di concittadini l'hanno sentito che faceva caciara, hanno pensato bene di chiamare la polizia. La polizia è arrivata, lui era ciucco come un diavolo e che cosa ha fatto? Siccome era per strada, in casa là vicino nel patio di un amico, e là vicino c'erano pronte una serie di bare che erano state fatte apposta per raccogliere le vittime del coronavirus. E allora lui, insieme a uno di questi amici con cui stava facendo bisboccia, c'avevano tutti e due la mascherina, fra l'altro, ha preso e quando ha visto gli agenti arrivare si è fiondato dentro la bara, un po' alla Ceccherini, capito? Facendo finta di essere morto. Però non ce l'ha fatta, perché gli agenti hanno visto che respirava, il suo pancione andava su e giù, e niente, l'hanno scuccato, gli hanno fatto ammenda, però poi lui il giorno dopo ha fatto una grande diretta televisiva nella quale ha dichiarato che era andato nella bara soltanto per, cito testuale, controllare le dimensioni, l'altezza e la larghezza della bara. Grande. L'ha detto ad America Noticias. Ha detto, questa è la ragione per cui mi sono buttato nella bara, ma non ha nulla a che fare con l'intervento della polizia. E questo è un rutto lo tradì. Un rutto lo tradì, anche la mascherina secondo me lo tradì. Devo decidere se provo stima o no per questo soggetto. Ma sì, dai. Sì? Sì, va bene, dai. Mi hai convinto. Sì, detto hai argomentato bene, mi ha convinto. Non ha nessuno. Posso tornare alla storia delle carte nei tavoli. Le ha cambiate anche lui. Vabbè, un gilet arancione. Va bene, però siamo pronti, Antonio Probo. Vogliamo sapere qualche news calendiana, dai. Fremiamo. Allora, news calendiana. L'altra volta. Sei preparato davvero? No, semplicemente oggi ho scoperto questa cosa meravigliosa che... Allora, io sono... Allora, ad oggi penso che non pecco di umiltà, perché non pecco di umiltà dicendo sì, che sono uno più grande. Dei... Forse il più grande, sì. Ma in Italia, ma anche oltre calendista d'Europa. Si dice calendiano, secondo me, comunque. No, calendista. Hai controllato calendista, su... nel senso... No, esperto di calende nel senso di il 15 del mese. Quelle greche, sì. Sì, no, romane tendenzialmente. Comunque, sì, esperto di calende. Sono anche esperto di Carlo, nel senso, non so, semplicemente un sostenitore, ma in senso ultraggioso, sì. Si può dire ultraggioso, sì, si deve dire. Ecco, e allora io, siccome da buon social media, insomma, ecco, controllo anche il lato social, cambio base, ho capito, Fabio Fazio. Sì, ho messo gli scape. Okay, Fabio Fazio. Un fratto a chiunque. No, allora dicevo, siccome, ecco, consulto sempre un po' la situazione, ho scoperto su Google Trends, te sai cos'è Google Trends, Mario? Sì, ma non lo dico, mi vergogno. Va bene. Allora, Google Trends, insomma, spieghiamo agli ottaniani che sono a casa, è semplicemente quello strumento di Google pazzo che dice a chi... Antonio Probo, mi fanno notare che si dice calendariano, eh? È questo il termine giusto. No, calendariano non va bene, calendariano sei esperto di calendari. Non va bene, ragazzi. Io sono un calendista. Calendista ci può stare, un calendiano però mi piace di più. Ma comunque lo deciderò io, sono l'unico. Nel senso, non è che ci sono altri metodi di paragone. Non è che stiamo parlando di Diego Fusaro, stiamo parlando di Calenda. Comunque, a parte questo, cioè Google Trends semplicemente ti dà la classifica delle parole più cercate, o meglio delle, anche volendo, delle ricerche più cercate all'interno di una keywords, quindi una parola esatta. Digitando calenda, io lo faccio ogni mattina, è un mio rito personale, tra il caffè e una cacata, cioè sempre cercare calenda, Carlo Calenda su Google Trends, ho scoperto che nell'ultima settimana, sottolineo ultimo, fai bene a farlo, che lo sottolineo, insomma, così solo rosso. Per dire che è rosso, giallo, nell'ultima settimana la ricerca all'interno della keyword calenda più cliccata e ha avuto un 550% di click in più. non sto scherzando, 550%. Posso mandare delle foto? Sì, nel senso che è stata ricercata 5 volte più della settimana precedente, giuro, è vero. Ah, rispettala, scusa. Qual è Esatto. Sì, rispetto al mese precedente, adesso che cazzo sì, me ne frega. Sì. Comunque, in particolare è stata la mamma di Calenda. Giuro, la mamma di Calenda. Io ma detto, perché lo sai chi è la mamma di Calenda? Tu da buon calendiano, calendarista. Allora, certo che lo so. Cristina Comencini, regista, drammaturga, scrittrice italiana, e va bene. Sì. Però, sei ferrato. Ci mancherebbe, sofferato, sono il più calendarista italiano d'Europa. Comunque è la terza volta che dici potrei inviare delle foto, non puoi inviare delle foto via radio. Non è detto. Allora, quindi io mi sono vestito così bene senza nessun senso? Sembrerebbe di sì. Perfetto. Però hai una cravatta molto bella. Grazie. Quindi sì, la calendiana mother è Cristina Comencini, ma in particolare ho scoperto oggi, sono andato, perché facciamo anche delle ricerche a livello di DNA, genealogiche, geologiche, insomma, tutte queste robe. Buona mela. Lo sai tu, caro Mario, caro maestro Ottani, chi è il nonno di Carlo Calenda? Certo, il babbo della mamma, vuoi dire, certo. Il babbo della mamma, chi è? Non sei un bravo calendiano, eh? No, dimmelo, chi è? E coso, è Bertolucci. Luigi Comencini. Non me lo ricordavo, sì, è Comencini. Luigi Comencini. Ok, Luigi Comencini, e questo, certo. E questo, ma io lo sapevo da sempre questo, anzi ti dirò, quando... Ma lo sai te che Calenda, fra l'altro, ora mi sovviene questa cosa, è stato attore dello sceneggiato Cuore. Ed è qui che vogliamo arrivare. Ed è qui che vogliamo arrivare. E questa cosa qui, allora... Ma bravo, perché? Sapevo, perché ho controllato se aveva fatto Franti, sarebbe stato bellissimo. E invece no, allora invece però no. Dobbiamo spiegarlo da capo, perché sennò... Allora, chiaramente il libro Cuore, stiamo parlando del libro Cuore, di Edmondo De Amicis, fine 800, bene, romanzone del cazzo. Sì. Arriva Comencini nel 1984, mi sembra, di preciso 86, che me ne frega. Quindi nonno del caro Carlo Calenda, e... Si fa, dice, guarda, voglio realizzare per la Rai, era Rai 2 all'epoca, comunque per una produzione Rai, una miniserie su, appunto, Cuore, chiamata Cuore perché è dedicata al libro Cuore, la famosa miniserie. Dimmi. Ma forse è su di lui che è basato il personaggio di René Ferretti? Su di lui Comencini o su di lui Carlo Calenda? Comencini. Ma perché fai questa affermazione? Ci può stare, però. Boh, non lo so, bisogna capire se anche lui al tempo già smarmellava. Indaghiamo. Mi documenterò. Forse non so se smarmellava. Non so sinceramente rispondere a questo. Io penso in realtà di no. Comunque, cosa è successo? Miniserie, appunto, chiamata Cuore di Edmondo De Amicis, eccetera, eccetera. E chi fa il giovanissimo protagonista all'età di 10 anni in questa terza elementare ottocentesca in cui tutti un po' parlavano di unità d'Italia, di borbonici, di austro-ungheresi? Carlo Calenda, 11 anni. Numero uno. A 11 anni il piccolo Calendino interpretava i panni di Enrico Bottini, si chiama Bottini. Cioè, beh, bellissimo. Insomma, dall'arte del teatro, cioè l'arte del recitare, che fondamentalmente è quella di dire menzogne, a quella del politico, che è un'altra arte che va di pari passo, no? Illazioni, vostro onore. Musica! Bene, comunque mi dispiace perché è come quando uno racconta il finale della barzelletta, il fatto che prima io ho detto questa cosa, chiedo scusa. Bravissimo che lo sapevi questa cosa, io l'ho scoperta oggi, ho detto wow. Me l'ha detto il mio nonno, lo sai? Ah vabbè, allora grazie alla minchia se ci affidiamo anche alle voci dei vecchi e non ne usciamo più. No, io parlo di studi, parlo di ricerche, ho letto almeno 6 volte la pagina di Wikipedia oggi. Quindi. In cosa sei laureato, Antonio Probo? Cardiologia. Va bene, spero che i nostri ascoltatori siano soddisfatti. Cos'era? Forza, cos'era? No, attenzione, cosa hai fatto? C'è un'ansa. Sentiamola. Sono super ansia. Questo è forte, sì, si sente. Aspetta, chi è? No, è Gasparri, è sempre Gasparri. Oh. Allora, Gasparri ha detto esattamente ieri, 23 maggio, i virologi terrorizzano la gente, chiedano scusa. Queste le parole pesanti del senatore Maurizio Gasparri durante una diretta su Instagram. Poi si è tolto entrambe le mani dal su per il culo, le ha annusate per 10 secondi, le ha messe in bocca a Fabio Fazio, strafatto di ketamina nel salotto di casa, legato come un ciauscolo e completamente nudo. In sottofondo si sentiva la voce di Vincenzo De Luca che diceva: guardatelo che bel fratacchione. In quel momento, ma da un'altra parte del cosmo, Diego Fusaro citava ancora Platone. Ascolta, c'è chi fa una domanda che io non ho capito bene, ma con quale occhio l'ha chiesto, mi chiedono. Con il destro. Con il destro è la risposta. Con il terzo era la risposta giusta. Allora, io, Antonio Provo, ti do tempo per vedere se arriva un'ultima ansietta mettendo una canzoncina e poi andiamo dritti dal maestro, io direi. Ok, arriverà un'ultima ansietta, arriverà. Vogliamo mettere una canzoncina, cosa mettiamo? E poi... Mandaci in orbita. E poi voliamo, maestro, siamo pronti. Canzoncina, vai, forse canzoncina. Canzoncina, cosa mettiamo, Provo? Elencami gli ultimi. Allora, c'hai un Vitalik, Disc Jockey, direi ganese. Vai, Gana. Ce l'ho io, forse. Era quella lì. Che l'hai mandata. C'è nella lista quella. Due dei ce ne meganoidi. Sono. C'è dei meganoidi. No, fai conto che tutti i tuoi consigli poi me ne sono sbattuto il cazzo. I meganoidi sono meglio di Vitalik, secondo me. No, allora, vi spiego. Maestro Tani aveva dato dei consigli che ho ottenuto però per la prossima puntata, perché oggi non si abbinavano bene con tutto il resto del meglio della puntata, ovvero la mia voce. Allora, no, dovresti avere, a parte gli scherzi, che comunque non era uno scherzo, è davvero il meglio della puntata. Vitali, due ce n'ho ancora. Vitali che poi... Phantom. I Justice. Allora, secondo me Maestro Ottani è più d'accordo con i Justice. Gran pezzo dei Justice. Ovviamente. Che sì. Allora, gran pezzo dei Justice di, penso, oltre 15 anni fa. Electro House. Allora, se non mi piace, te lo dico, lo butto giù dopo un minuto, Proviamoci. Ok, però. Spintissima. No. Buttala dentro. E allora è troppo Italic, dai. No. Davvero, a te piace più Justice. Vai, o mettiamo buttala. Justice giù. I'm not afraid of the dark. sì, ascoltatori, ho fatto un troiaio qua con i suoni. Eccoci, però siamo finalmente ritornati. Non l'ho ascoltata la canzone, però vi ho linkato e noto che l'avete apprezzata con due bei moccoli e un sacco di ha-ha-ha. La domanda sugli occhi, il chiarimento sulla domanda con gli occhi, ma godiamocela fra noi perché è difficile far vedere come abbiamo capito. Un'immagine alla radio, Wombat. Allora, è indiscutibilmente giunto il momento del maestro. Io ho preso anche da bere, mi sto liberando già... Scusate, ci sarebbe un'ultimissima ansa. Oh, maestro, ecco. Ne ha diritto? Sì, sì, nel frattempo slacciatevi le cinture e abbassate le zip. E chi l'ha già fatto? Faccia il contrario. Ok, no... Non ridere, maestro Tane. Allora, una piccolissima ansa rapidissima da Napoli, sempre da Napoli, una terra fertile di ansie. Allora, Vincenzo De Luca lancia la campagna Cafoni Zero. Lo sapevi, Mario? Cafoni? Cafoni, Cafoni Zero. Insomma, questa campagna, che ne so che cos'è. Vabbè, continuo. Vincenzo De Luca lancia la campagna Cafoni Zero. E ora scusatemi, ha concluso il governatore, ma devo tornare a saltare sopra pizze giganti all'interno di un videogioco. Bellissimo, bellissimo il videogioco. Chi non ha avuto le brezza lo può trovare, non mi ricordo dove, ma è The Luca Run, si chiama, vero? Sì, chiocciolainsiberia.net. Ale. Allora, Antonio Provo, rimani con noi però, perché ti vogliamo portare con noi fra le stelle. Intanto ho una canzone pronta pronta per il, per l'introduzione, breve. È Peppino di Capri, pensa te. Maestro, accendi la radio, senti qua cosa ti metto. Vai! Nella notte limpida son scesi giù dal ciel dei piccoli marziani che ci parlano così. Quante cose splendide avete intorno a voi, ma se sull'astronave salirete insieme a noi, dei grappoli di stelle nello spazio coglieremo, passando per la Luna verso Marte ce ne andremo. Se il vostro viso è pallido, il nostro invece è blu, abbiamo le mani piccole, le antenne volte in su, ma dove siamo simili è certo in fondo al cuore, perché ci nascondiamo tutti insieme un po' d'amore. Chiedeteci perché, le nostre antenne dicono tornate su nel ciel, qualcuno già ci aspetta ma ritorneremo qui, amici della terra noi vi salutiamo così. Beh, era notevole, notevole la sigla. Maestro, allora, mentre metto un sottofondo pazzesco, nuovo nuovo, che ho preparato apposta per oggi, ti vorrei chiedere, è una descrizione fedele? Cioè, viso blu, antenne dritte, mani piccole e fanno bere bere bere bere bere bere bere bere. Piuttosto fedele, a parte la lingua, che in realtà, come scopriremo più tardi, è l'ebraico. Bere bere bere bere bere. Io non lo conosco, magari suona così. A occhio. A orecchio. Allora, il sottofondo è Vita da spaziale. Allora, ci siamo lasciati tre settimane fa con un sacco di porte aperte a futuri approfondimenti, maestro Ottani, che ricordo grande compositore, ma qui per noi solo grande ufologo. E quale sarebbe la differenza? Nessuna, bene. Allora, ci sono stati un paio di argomenti che hanno solleticato gli ascoltatori. Io ho pensato di più degli altri. Ho pensato di approfondirne uno oggi, uno prossimamente, nelle prossime puntate. Hai appena detto ho pensato più degli altri. No, ho pensato, cosa ho detto? Non lo so, è un'ora tarda. Sicuramente più di me. Sospetto anch'io. Un'altra invece è una curiosità che mi riguardava direttamente. Non so se farti prima la curiosità oppure l'approfondimento. Direi prima la mia curiosità personale. A un certo punto, due puntate fa, o tre, non mi ricordo più, ci hai detto una cosa pazzesca che io non avevo mai sentito, proprio mai in tutta la mia vita. Ovvero il fatto che i grigi, cioè gli alieni a cui siamo abituati, quelli con gli occhioni, il testone, i grigi, macilenti, con le dita affilate, magrini, bassi, non sono alieni, ma sono in realtà, hai detto qualcosa tipo, sono dei cyborg biologici. Sono dei... degli IVI, che è un acronimo che sta per Extraterrestrial Biological Entities. Quindi sono entità biologiche extraterrestri, ma non esseri viventi, quindi non ho chiaro questo aspetto. Sono esseri viventi, dotati però di poca coscienza, direi. Giorgia Meloni, ok. Potrebbe essere uno di loro tra noi. Le fattezze sono quelle poi d'altronde. Allora, non ho capito bene, sono qualcosa alla mercé... o qualcuno alla mercé di qualcun altro, quindi una specie di schiavi marziani. Sì, esattamente. Io mi rifarei alla descrizione che propone Corrado Malanga, che non c'è niente da ridere. ha riso. Ora mi offendo e non parlo più. No, però boh, ti stacco il microfono, te lo dico. Senti, hai riso, cioè hai fatto una grande figura col maestro. Perché non avevo dubbi che citasse Malanga in questo momento, me l'aspettavo. No, allora facciamo una piccola premessa. Rispondo alla tua domanda tra un minuto, faccio questa piccola premessa. All'interno delle mie ricerche e della mia sete di conoscenza, prima di approdare a quelli che sono gli studi di Corrado Malanga, che adesso sono diciamo quelli che seguo principalmente e sulla quale faccio più affidamento, prima di questa fase mi rifacevo invece molto di più alle ricerche di Stephen Greer, che è stato il fondatore del Disclosure Project. Praticamente questo... Stephen Greer è... negli anni 90 e negli anni 80 era un infermiere operante negli Stati Uniti, sua terra natia. E dopo un po' di tempo decise di fare del suo hobby la sua professione, in questo caso la ricerca ufologica, e fondò il Disclosure Project, un progetto che si basa sulla raccolta di testimonianze da parte di dipendenti o ex dipendenti di agenzie governative, militari e industriali, che in qualche modo sono testimoni del fenomeno UFO o di incontri ravvicinati. È tuttora attivo questo Disclosure Project? È tuttora attivo. E... aspetta, una domanda, ma il MUFON di cui io ho visto su D-Max? Non c'è da fidarsi. È una specie di hangar in cui raccolgono testimonianze fatte a sinistra e a destra con scopo divulgativo, poi. Sì, è questo, ma c'è poco da fidarsi di quelli del MUFON e scopriremo anche perché. Invece, ma quello che volevo dire sul Disclosure Project e su Stephen Greer è che le conclusioni a cui è arrivato il nostro simpatico infermiere sono non entrano in contraddizione con quelle che sono le conclusioni che, a cui è arrivato invece Corrado Malanga. Semplicemente sono abbastanza convinto che Corrado Malanga sia andato più a fondo nella questione e abbia studiato meglio tutta la questione. Di conseguenza Steven Greer parla di un approccio abbastanza Steven Greer ci dice fondamentalmente gli alieni sono buoni e vogliono il nostro bene. Corrado Malanga ci dice momento, non è proprio così. Ok, ma ha svolto ricerche autonome o si basa su ricerche statunitensi o altre già acquisite? Malanga ha svolto ricerche autonome a partire dagli anni 90 fino ad oggi, e comunque i suoi studi hanno un forte riscontro con anche altri studi che sono avvenuti sul resto del pianeta. Possiamo per esempio confrontare di Steven Greer e di Malanga su quelli che sono appunto, come dicevamo prima, gli ibi, sui grigi, no? E in realtà raggiungono la stessa conclusione, nel senso che i grigi non sono propriamente una popolazione aliena, ma sono delle entità biologiche create in vitro, si potrebbe dire, da altre razze aliene che li utilizzano come schiavi, fanno il lavoro sporco, diceva tra di noi. Ok, ma come i blogger, per intenderci, maestro? Sì. Ma perché posso fare una piccola, che sia soltanto, penso, per una fruizione collettiva di queste informazioni importanti. Volevo chiedere al maestro e quindi in generale a noi tutti se una proposta, ecco, semplicemente lessicale, se potessimo magari pronunciare Corrado Malanga un po' più all'americana, tipo Malanga, Corrado Malanga, secondo me risulterebbe anche molto più ad hoc, ecco. Te la puoi giocare? Fonicamente giusto e piacevole, ma da un punto di vista di simpatia e di senso un po' meno, perché il nostro Malanga è un forte anti-Yankee. Bene. Va bene. Scusate, però pensavo, ecco, fosse grazie importante. Per il tuo conto. Sì, non lo era in effetti, però infatti abbiamo affrontato la questione. Anch'io sono col maestro Tani per chiamarlo all'italiana in quanto anti-Yankee a mia volta. Malanga! Però io vorrei domandare su questo aspetto, quindi per cui i grigi sono entità create in vitro per fare il lavoro sporco. Da dove la desume questa conclusione? Cioè da dove prende? Da tutte quelle che sono le esperienze riportate dagli abdotti in giro per il globo. Gli abdotti sono quei soggetti che sono stati sottoposti a una abduction o abduzione. Comunque il termine inglese deriva dal termine latino, che come sappiamo è una fase tarda. No, vabbè, ora sto confondendo. Ma sarebbe un banale rapimento? Non proprio banale, però no, sì. No, cioè nel senso, detta in modo banale, sarebbe un rapimento, volevo dire. Sarebbe un rapimento ai danni della razza umana da parte di perpetrato da quelle che sono razze aliene. E avrebbero visto quindi i grigi svolgere il lavoro per conto di altri durante le loro... Esatto, esattamente. E quindi... E gli è stato anche, non solo l'hanno visto, ma gli è stato anche spiegato. Cioè, chi ha subito, come si dice, incontro ravvicinato del quarto tipo, questo, giusto? No, esatto, il quarto tipo. E questo è il quarto. Allora, se vuoi possiamo rivedere un po' la terminologia. Allora, l'incontro ravvicinato sì. del primo tipo è praticamente quando avviene nel momento in cui si vede una navicella nel cielo. Primo tipo. Secondo tipo? Primo tipo. Secondo tipo è quando all'interno di questa navicella si vedono delle entità. Ok, terzo? Il terzo tipo è quando si vedono delle entità ma sulla Terra. Cioè, fuori dalla navicella? Il quarto... Esatto. Il quarto tipo è quando si viene rapiti da queste entità e portati sulla navicella. Il quinto tipo è quando si ha un rapporto sessuale, non sto scherzando, con una entità extraterrestre. Ma che avviene attraverso il sesto i nostri... tipo? C'è pure il sesto? Il sesto tipo, come ci ricorda Antonio proprio, è quando questo rapporto ti piace. Scusate, serve un'ansia rapidissima. Sì, sì. Il Corriere della Cheta ci dice che il sesto tipo in realtà è quando è un semplice avvistamento in una ricerca spaziale, in cui però al cui interno c'è Mario Giordano che fa il monopattino. No, ma il rapporto sessuale avviene nel modo convenzionale, quello che conosciamo? Avviene nel modo convenzionale come conosciamo, ma infatti stiamo bruciando le tappe. Io direi di ripartire dalla definizione di Grigi di Quindi. Quindi leggerò un piccolo estratto, se vi fa piacere. Da quelle che sono le ricerche di Corrado Malanga. Giù la musica. Che sono... Come? Che sono liberamente consultabili sul sito corradomalangaexperience.com. Ok, vedete come è meglio, come suona più professionale? Il fatto che sia british, anglofono. Butto giù la musica. E soprattutto sono coperte da Creative Commons. Quindi rilasciate in open source. Butto giù la musica. Esatto. Vai, maestro. Ognuna di queste razze ha a disposizione esseri piccoli, definiti genericamente grigi o ibi, entità biologiche extraterrestri, come risulta da alcuni documenti della CIA declassificati con il FOIA, che possono essere considerati cyborg, cioè veri e propri robot biologici ottenuti per clonazione. Come abbiamo accennato, esistono diversi tipi di grigi, i quali vengono descritti in modo simile, ma possiedenti caratteristiche morfologiche, come ad esempio il colore della pelle e l'altezza. Esse vengono descritte con precisione durante l'ipnosi e differiscono a seconda della razza aliena con cui si ha a che fare. Le descrizioni sono state esaminate nei minimi dettagli per trarre indicazioni il più possibile sicure. Per esempio, dopo un attento esame incrociato delle testimonianze e lo studio di appropriate domande da porre agli addotti durante l'ipnosi, gli esseri blu, che sembrano dei grigi più alti, 150 cm invece di 100 cm o poco più, sono risultati in realtà neri. Responsabile del colore blu si è rivelata l'illuminazione azzurra della sala operatoria in cui questi esseri accompagnano gli addotti. La pelle di questi grigi alti, che lavorano solo con un certo tipo di alieni di cui parleremo dopo, sono assenti in tutti gli altri contesti. È infatti di colore nero traslucido e riflettente e riflette le luci ambientali, la colorazione. Nero e azzurro appaiono blu, quindi sotto queste luci blu della sala operatoria. Questo era estratto, tratto per l'appunto, dal documento Abduction Scenario sul sito di Corrado. Quindi viene spiegato anche com'è che siamo riusciti a ricavare ricordi che evidentemente erano stati cancellati dalla parte conscia della mente dopo gli incontri del quarto o quinto tipo, ovvero tramite ipnosi. Ipnosi regressiva, esattamente una tecnica studiata a fondo già all'inizio del Novecento da Sigmund Freud e Carl Gustav Jung. E ci sono state testimonianze comuni che riportano che vi sono diverse razze aliene che però corrispondono a una medesima descrizione, ovvero alte circa 1,50 m, di colore nero e non blu, che controllano sostanzialmente i grigi, giusto? No, questi sono un tipo di grigi, in realtà, forse mi sono spiegato male. Questi sono un tipo di grigi, in realtà ci sono poi altri tipi di grigi, ci sono, appunto, differiscono nel, per farla breve, nell'altezza, ci sono quelli molto bassi e quelli parecchio alti, e differiscono nella tonalità del colore della pelle, che è sempre più o meno intorno al grigio, ma può essere un grigio molto scuro o un grigio molto chiaro tendente al bianco. Va bene, Ma questo ci porta infatti alla seconda, direttamente alla seconda domanda, che è quella appunto che aveva stuzzicato più di altri forse l'interesse degli ascoltatori della puntata scorsa, ovvero la presenza di diverse razze aliene che sono anche in conflitto fra di loro, e avevi usato un termine specialistico, con una agenda diversa le une dalle altre nei riguardi degli esseri umani. Corretto. Esatto. Correttissimo. E se mi è consentito, proseguirei nella lettura del documento, dove vengono proprio descritte a grandi linee queste razze. Mando giù di nuovo la musica. Pronti? Fatto. In realtà non si dovrebbe parlare di razze, ma più appropriatamente di gruppi di potere. Del primo gruppo di potere fanno parte esseri che sembrano mammiferi, mammifero morfi, alti circa 2,40 m, bianchi di carnagione, bianchi di capelli, con 6 dita nelle mani e con gli occhi chiari, azzurrini, con pupilla verticale. Questi esseri sono solitamente vestiti di bianco, portano appeso al collo un medaglione rotondo con una specie di simbolo triangolare. Sono provenire dal sistema triplo di Sirio, li chiameremo siriani. Non sono mai state segnalate femmine siriane. Altri, anche loro di tipo mammifero morfo, sono biondo rossicci, li chiameremo appunto biondi, alti circa 2 metri, con pupilla ad andamento decisamente verticale, cranio allungato che si assottiglia progressivamente sui lati, partendo dalla fronte, come la prua di una nave. Pelle abbronzata, vestiti con tute blu scuro attillate, con 5 dita nelle mani. La tuta è caratterizzata da uno stemma a forma di 2 triangoli intrecciati, posto sul pettorale sinistro. Anche questi sembrano provenire dal sistema di Sirio, vengono sempre definiti belli ed hanno le femmine. Esistono poi altri mammifero morfi, diversi dai precedenti, alti più di noi, ma non esageratamente, i quali hanno mani a 5 dita, sono bianchi di carnagione, dotati di capelli lunghi bianchi e si vestono con una veste bianca non attillata. Vengono sempre definiti belli ed hanno le femmine. Questi alieni sembrano provenire dalla costellazione del Toro, pertanto li chiameremo tauriani. E si differenziano dagli altri due poiché nei rapimenti essi sono i soli ad interagire con gli addotti. Negli altri casi, invece, dopo un primo intervento dei biondi, di cui abbiamo parlato precedentemente, subentrano altre entità di cui si parlerà più avanti. È dunque evidente che alcuni gruppi lavorano, mentre altri si fanno semplicemente gli affari loro. Allora, rialzo la musica. Beh, allora, intanto è abbastanza incredibile la descrizione precisa che viene fatta, cioè il numero di dita, i simboli che portano addosso, l'altezza precisa, gli abiti, se si può dire così, di cui sono vestiti. È il risultato della testimonianze di tutta una serie di addotti che hanno riportato in ipnosi regressiva, per l'appunto. Che sono e comuni sono le une alle altre. Tutte comuni l'una alle altre. Persone che non si sono mai incontrate, persone che vivono dall'altro lato del globo. Allora, questo tipo di studi non li ha iniziati Corrado Malanga, a dire la verità, li hanno iniziati per primi gli Yankee e i Crookie, e dopo Malanga ha cercato di rifarli in Italia, però a suo dire cercando di non commettere gli errori che avevano commesso invece gli americani e i tedeschi, perché quando si gioca con la psiche e con la mente è molto facile commettere degli errori. Allora, scusa, faccio un breve passo indietro prima di tornare non alle razze, ma anche questo è interessante, il fatto che te non parli di razze, ma com'era l'espressione che aveva usato Malanga? Gruppi di potere, infatti dopo parleremo anche di altri due gruppi di potere, più dell'altra razza però, che esce fuori. Sì, prima di andare... Scusate, però, ho capito gruppi? Sì, hai capito bene, cheerleader, hai capito bene. Cheerleader di potere, mi interessa, mi metto in lista, seguo. C'è chi si dice un po' deluso in realtà, perché hai fatto una certa confusione, sembra, fra clonazione e creazione in vitro. Cioè, è strano che siano effettivamente clonati. C'è chi mi fa presente questa cosa, te la riporto, perché in effetti, cioè, una clonazione si aspetterebbe di vedere un essere pressoché identico a quello da cui è stato clonato. È differente dalla creazione di un essere ex novo in qualche modo, magari attraverso un... Verissimo, cioè, verissimo, c'è da dire che io non sono affatto un esperto di ingegneria genetica, al contrario invece dei nostri amici alieni. E c'è da dire anche questo, che il loro intento non è quello di creare individui tutti uguali, quindi clonati, o individui diversi l'uno dall'altro. Quello che viene fuori dalle testimonianze comunque è che ogni individuo facente parte dei grigi ha delle caratteristiche che lo fanno differire leggermente fisicamente dagli altri suoi consimili. In questo caso, correggendomi, non è più giusto parlare di riproduzione in vitro e quindi non di clonazione. E poi comunque, tutto sommato, se vogliamo anche dire il discorso della clonazione, una persona è come il discorso dei gemelli, cioè se uno possiede anche esattamente lo stesso patrimonio genetico di un altro individuo, poi esistono anche gli agenti ambientali esterni a modificarne l'aspetto e quindi a far differire magari un gemello da un altro. Okay, un gemello omozigote, ovviamente. Quindi mi scrivono che dovremmo non parlare di cyborg, ma piuttosto di biologia, per essere esatti. Sì, il termine giusto, infatti IBI è il termine, ma ancora meglio, in italiano esiste la parola androidi. Sì, però se penso all'androide italiano mi penso a un robot, cioè una cosa creata dagli uomini attraverso... Gli androidi sono quelli di come si chiama quel film, oddio, non mi sovviene. Blade Runner. Che però Blade non hanno un codice genetico umano, sono cose fatte con materiale terrestre, assemblate, no? Un po' come appunto i classici robot, giusto? In realtà esistono anche in Blade Runner, e mi pare il protagonista è fra questi, esseri che sono a metà, quindi biologici sintetici ma anche con componenti tecnologiche. Va bene, adopereremo quindi il termine IVI, giusto? Ricordiamo la sigla, vuol dire? Extraterrestrial Biological Entities. Entità biologiche extraterrestri. Ok, allora, tornando però alla questione che non si parla di razze, ma di, com'era, ruoli di potere? No. Gruppi di potere. Gruppi di potere, cioè si potrebbe pensare che siano classi diverse, classi sociali diverse, di una stessa razza, di una stessa genia? Cioè come... In alcuni casi sì, in altri no. Per esempio, prima abbiamo parlato dei siriani, dei biondi e dei tauriani. In questo caso i siriani e i biondi si può pensare, vedendo le loro agende per l'appunto, si può pensare che siano di una stessa razza ma appartenenti a classi sociali diverse. Infatti pare che provengano dallo stesso sistema, cioè quello di Sirio. Però io non mi azzarderei a dire una cosa del genere, anche perché i siriani hanno 6 dita e i biondi invece ne hanno 5. Penso che questo possa fugare ogni dubbio. Cioè, quindi è probabile che si parli, diciamo, se il termine è giusto, di specie diverse? Sì, esatto. E cioè, è stata fatta un approccio scientifico a questo? Cioè, quante sono le specie conosciute? Allora, le specie conosciute sulla Terra dovrebbero essere 12. Un attimo che ricontrollo. Wow. Sì, 12. E però 4 di queste sono avvistate con maggiore frequenza. Sono forse le 4 razze stanziali a cui faceva riferimento il colonnello Philip Corso? Questa è la domanda che si pone Malanga stesso. Chi è il colonnello Philip Corso? Lo vedremo nelle prossime puntate. Bene, ok, lasciamo infatti questa cosa in sospeso. Però allora, piccola anticipazione, Mario, sul colonnello Corso. Sì, proprio, prego. Vi ricordate il Eifu Luis Sepulveda, che appunto è deceduto da poco, e quel... Sì, quello della Gabanelli. Esatto, il famoso libro La Gabanelli e il gatto insegnò a fare dei report utili. Ecco, non c'entra niente, non penso che abbiamo davvero nessun rapporto queste due cose. Quindi tutto il resto può essere indagato e noi siamo anche per questo, per fugare quello che non merita di essere indagato, ecco. Grazie. Per il resto io ho dato almeno 3 esami di fuga, voglio sottolineare. Maestro, infatti, appunto, giusto. E non di fuga da extraterrestri, perché qual è l'approccio giusto di fronte a un incontro, maestro? Perché a me un po' mi preoccupa, francamente, l'incontro avvicinato del quinto tipo. Cioè, così. Esatto, esatto. E di questo parleremo abbondantemente in prossimi episodi, ma qui vi posso anticipare che la violenza non serve a niente. Le nostre armi, per fortuna, risiedono tutte all'interno della nostra psiche. Aspetta, quindi l'approccio a Independence Day, piglio tutti gli aerei e glieli schianto contro, non ha senso? No. Ma e invece io scappo e mi do di fronte a vedo una navicella, è un approccio... Tanto meno. Te che faresti? Farei quello che ho già fatto, cioè schermare la mia mente. Wow, come si fa? Questo preferisco parlarne, sì, anche perché se no mettiamo un po' troppa carne al fuoco. Io direi di proseguire con la descrizione delle varie razze. Sì, va bene, è giusto, stiamo concentrati, è vero. È che è normale essere portati un po' via e andare di palo in frasca su un argomento così vasto. Però normalissimo. Proviamo a stare in effetti sulla questione delle razze aliene. Allora, sono 12, alcune ricondotte a una stessa provenienza, che è quella della costellazione di Sirio. Anche qua comunque è incredibile sapere, perché vari episodi di ipnosi regressiva hanno fatto presente che è stato loro detto... Sì, poi... certo. Poi questo tipo di conoscenze non derivano soltanto dall'ipnosi regressiva, derivano anche per esempio da quelle che sono le mitologie, un altro tema, un altro ambito della conoscenza che mi sta molto a cuore. Le mitologie più antiche parlano di un certo tipo di conoscenza che, visti gli strumenti tecnici dei popoli alle quali si attribuiscono, sarebbe impossibile. Ma si parla di esempi classici come gli egizi? Sì, si parla di esempi classici come gli egizi o anche meno classici come gli etiopi, ad esempio. E si vede come, per esempio, tante di queste civiltà sapevano che Sirio fosse un sistema binario, quindi una stella doppia. In realtà, e non è osservabile questo? Non è osservabile assolutamente a occhio nudo, anzi è una cosa che abbiamo scoperto, io penso, nella seconda metà del Novecento, ora non so bene quando, però quando abbiamo avuto la potenza telescopica, ottica, per poter vedere questa cosa. Fra il resto la binaria di Sirio è una nana bianca ed è per questo che non la possiamo vedere ad occhio nudo, è completamente la sua luminosità è completamente oscurata dalla stella principale. Ok, e quindi sì, no, va bene, chiaro questa cosa. Però allora, a proposito di mitologia, però mi suggestioni una cosa: ci sono alcune interpretazioni che mi è capitato di leggere per cui anche gli dei antichi, gli dei, diciamo, greci, romani, in realtà non siano delle rappresentazioni ipotetiche, ma corrispondano a delle entità reali che realmente interagivano con gli esseri umani. Per esempio, che parteggiano, io penso anche ai poemi omerici, come, che ne so, la guerra di Troia, in cui ci sono certi dei che si schierano con i troiani, certi altri con gli achei, e intervengono direttamente nelle battaglie, cambiando talvolta anche schieramento o predilezione, voglio dire, per i paladini. Certo. Ma e quindi sì, sì. È un'interpretazione che te ritieni credibile, ovvero... È un'interpretazione che io ritengo credibile alla luce di anche altre fonti, come possono essere i Veda o Vada, ora non mi ricordo, Veda, indiani, sì. i Veda esatto, o alla luce anche per esempio dell'interpretazione della Bibbia, dell'Antico Testamento principalmente, che vede un Dio violento e iroso, totalmente schierato con un popolo a cui ordina di guerreggiare con altri popoli. Quindi l'interpretazione più credibile che stai proponendo è quella per cui sono esseri viventi, reali, che già da secoli, se non millenni, erano presenti nella Terra e interagivano in modo diretto con gli esseri umani, ma più ancora, molto più di quanto non avvenga oggi. Anche questo però dobbiamo affermare. Sì, dobbiamo affermare anche questo, ma su questo passaggio c'è da fare delle chiarificazioni. Io appunto sarei per il dedicare gli spazi all'interno di questa trasmissione, se possibile, a questi vari aspetti della questione, per dare un quadro il più possibile generale della situazione che si ha davanti. Effettivamente, in tempi passati c'era un'interazione, diciamo, più esplicita, ecco. Ma torniamo allora, comunque, va bene, è giusto, è un buon approccio, torniamo alla questione delle diverse, ora mi viene, ruoli di potere, classi, diciamo così, non specie, razze. Ok, cioè... Quello che si sta dicendo è che ciascuna ha una propria agenda, ma prima hai lasciato intendere che queste agende sono anche conosciute, sono note, non ignote. Sono note e interagiscono anche tra di loro, come vedremo più avanti. Se sta bene a tutti, proseguo nella lettura che chiarifica questo punto. Giù la musica, via. Mi oppongo. No, non puoi. Prego. I Tauriani, quindi gli ultimi di cui abbiamo parlato, interagiscono con gli addotti sempre da soli, ma quando si ha a che fare con il gruppo proveniente da Sirio, sembrano intervenire sempre per primi, bronzati a cinque dita, i biondi. Poi, nel corso della vita dell'addotto, subentrano gli altri. Sembra infatti che i biondi dispongano della mappatura genetica dell'umanità, o comunque sappiano distinguere gli esseri umani adatti per i rapimenti da quelli che vanno scartati, perché non possiedono quella cosa che a loro serve. Ancora più in alto, in una informale scala gerarchica, sembrerebbero esistere esseri molto più antichi, molto alti, vestiti sovente con abiti stillati, che i nostri addotti dicono di non aver mai visto direttamente, ma di aver percepito come se fossero dietro uno schermo. È quindi difficile stabilirne l'altezza esatta, anche se, da alcune considerazioni, per brevità non esposte in questa sede, noi li stimiamo attorno ai 3 metri. Questi esseri hanno occhi tondi e quasi bianchi e possiedono un appendice sotto il mento che li fa assomigliare a uomini barbuti ed è caratteristica solo dei maschi. Le femmine sembrano non possederla. Per di più sono dotati anche di 2 ossa scapolari molto pronunciate, a chi li vede di fronte ricordano erroneamente grandi ali ripiegate dietro la schiena. Talvolta è stata notata al centro della fronte la presenza di quello che sembra il loro vero occhio, molto luminoso. Li chiameremo pertanto monocoli. Le dita, 3 più un dito opponibile, sono sottili ed arcuate come quelle di un uccello. I monocoli, quando si spostano, sembrano dotati di poteri telecinetici e non stanno qui, ma trasmettono i loro messaggi agli altri alieni da lontano con mezzi tecnologici. Aggiungo, come nota, che questo ultimo specie, quella appunto dei rapaci, li potremmo anche chiamare così volendo, o quelli che hanno la testa a forma di uccello, direbbero altri, sono quelli che vengono rappresentati dagli antichi egizi come il dio Horus, il dio dalla testa di falco. poi in realtà è pazzesca la precisione di queste descrizioni. E vero, Mario? Stupisce anche però un po' pensare che sia stato possibile per un rapito avere coscienza di tutto questo. Beh, in realtà il rapito, proprio per quello che gli alieni vogliono da lui, deve essere cosciente molto spesso all'interno del processo, dell'intero processo di abduction. In realtà non all'interno dell'intero processo, perché soprattutto i momenti di di partita dalla Terra e di ritorno alla Terra avvengono in stati semicoscienti. Ma perché allora vengono rapite, se il termine è giusto, le persone? Per... Questa è un'ottima domanda e ci arrivo un attimo. Se vogliamo proseguiamo con la descrizione degli altri due gruppi di potere, altrimenti rispondo subito alla domanda. No, sì, sì, finiamo l'excursus, sì. Bene. Via. Del secondo gruppo di potere fanno parte esseri di natura sauroide. Li chiameremo sauroidi, anche se vengono erroneamente chiamati rettiloidi dall'ufologia contemporanea. Sembrano esistere due tipi di sauroidi. Il primo, e più invasivo tipo, è alto circa 2,80 m, ha 5 dita nelle mani e nei piedi, più sull'avambraccio, distante dalla mano, un'unghia rotata o rostrata, simile al dito, che i gatti hanno sulle zampe posteriori, ma dotato di una struttura chitinosa molto dura. La pelle, che sembra sempre umidiccia e traslucida, è di colore verde-marrone e, vista da vicino, appare dotata di scaglie, le quali, se esaminate attentamente, si rivelano più morbide del previsto. La pelle diventa progressivamente rossa nella zona ventrale e nei polpastrelli delle mani. Nelle zone la pelle si fa più sottile e si può vedere scorrere una linfa rossa, soprattutto quando l'alieno sembra comportarsi in modo disturbato. Il cranio, sui lati destro e sinistro, è caratterizzato dalla presenza di due superfici cornee, tondeggianti e poco sporgenti, mentre al centro esiste una struttura più morbida, sotto la quale si vede pulsare la linfa. Questa struttura sembra una spina dorsale in rilievo e percorre, bene in evidenza, tutta la lunghezza della testa, del collo, del dorso e della grossa coda. Pertanto chiameremo questi alieni draghi. Citazione incredibile. La grossa, non l'ho colta. Poi te la spiego. Sì. Grande drago! Esatto, provo l'ha colta. La grossa e tozza coda viene utilizzata come terzo punto di appoggio quando il sauroide sta fermo sulle due corte e tozze gambe. Pazzesco. Le dita delle mani e dei piedi sono abbondantemente palmate. Disponiamo di pochi dati sulla lingua, che sembra però essere tozza e bifida. Gli occhi sono dotati di una sottopalpebra, membrana nittitante, che scorre in diagonale dal basso verso l'alto e dal naso verso l'esterno. Le pupille sono verticali, le iridi cambiano di colore, dal giallo-verde al rosso vivo, a quanto pare secondo l'umore. Disponiamo di rapporti su draghi di varie dimensioni e noi riteniamo che questa caratteristica dipenda dalla loro età e che essi continuino a crescere sempre, senza un vero e proprio limite massimo. L'aspetto generale viene detto quello di un drago o a volte come quello di un coccodrillo in piedi, anche se il viso è arrotondato come quello di un serpente, con labbra sottili e narici poste in fondo al setto nasale, ma laterali piuttosto che frontali come le nostre. Si tratta di esseri anfibi, tra i quali non si nota la presenza di sessi. Sono sempre descritti insieme ad un'altra specie, apparentemente loro sottoposta. Pazzesco. Quest'ultima specie è composta da sauroidi senza coda, alti circa 2 metri, con la pelle traslucida, occhi a palla che conferiscono rigidità allo sguardo, perciò li chiameremo rane, e denti verticali, lunghi e sottili, che ricordano la disposizione dei fanoni delle balene. Sulla testa hanno come dei piccoli corni, che da lontano ricordano una capigliatura a spazzola. Si tratta tuttavia di molte escrescenze cornee ravvicinate. Questi esseri sono talmente simili l'uno all'altro da rendere impossibile identificarne le differenze, anche se se ne vedono diversi contemporaneamente. Anche tra di loro non si nota la presenza di sessi. Del terzo gruppo di potere fanno parte esseri di tipo insettoide, simili alle nostre mantidi religiose, perciò li chiameremo mantidi, di colore verdastro con corpo chitinoso, che si muovono quasi camminando sugli arti posteriori. Gli arti anteriori vengono tenuti come se l'alieno stesse pregando, quasi con le mani unite. Queste hanno tre dita, più un dito diverso, non sappiamo se è opponibile. La bocca è piccolissima e la testa, dai grandi occhi scuri, viene spesso tenuta piegata su di un lato. Non si sa con sicurezza se hanno un altro paio di piccoli arti intermedi, tra quelli superiori e quelli inferiori. Gli addotti dai siriani passano poi, nell'arco della loro vita, nelle mani delle mantidi e quindi in quelle dei sauroidi. Come si è già detto, sembra che gli addotti dai tauriani non vengano invece toccati da nessun altro. Capite adesso qui il discorso che facevo sulla agenda e sul fatto che le varie agendas di questi di queste razze sono intrecciate tra di loro. No, proseguo con l'ultimo un po' come tratto. Può avvenire fra diversi specialisti, diciamo così, faccio per dire, all'interno di un ospedale o di... esatto, dici bene. Io sarei quello che annuncia la morte, per esempio. Sì, o forse saresti quello che a cui viene introdotta una sonda anale. No, scherzo. Ben venga, non scherzo. No, citazione, sì, dalla prima puntata di South Park, questa. Come... sì. Ok, ho una domanda, ma te la faccio dopo. Vai. No, vai. No, c'è chi fa notare che però la rappresentazione degli alieni risulta, a parte che ultra minuziosa, anche un po' troppo poco fantasiosa apparentemente, nel senso somigliano a qualcosa di conosciuto, qualcosa di umanoide, insettoide, rettiliano, insomma qualche cosa che ha una corrispondenza nella Terra per come sono disposti gli elementi del corpo. E a questo... si può dare un nome, tra l'altro, ripeto, Giorgia Meloni, non vorrei essere troppo noioso. Pedante. a questo proposito vorrei fare riferimento a quello che è il discorso che c'è a monte, perché adesso noi stiamo facendo quella che può essere, so, definibile come un pantheon, o per meglio dire un bestiario, ok? Di questo fenomeno, ma in realtà questo è solo il primo tassello, perché poi c'è un grande tassello alle spalle di questo che ci spiega molto meglio le loro agende, per l'appunto, e ci fa capire anche da dove arrivano loro, da dove arriviamo noi e cosa loro vogliono da noi. Di conseguenza, queste caratteristiche fisiche e morfologiche, che sono, come dire, familiari, possono essere familiari a noi, apparirebbero molto più, non eccessivamente al di fuori della norma, ecco, o comunque non eccessivamente... Non ci apparirebbe strano il fatto che ci fossero così familiari, ecco. Ma io penso anche su questo due cose. La prima è che naturalmente il nostro cervello è portato a ricondurre a forme familiari quello che vede, come quando si vedono le facce sui campanelli, faccio per dire. Questo è un processo psichico noto. E un'altra cosa è forse che alcune caratteristiche devono necessariamente essere comuni, magari, come per esempio l'avere un apparato respiratorio o digerente o cose del genere, forse hanno a che fare con la possibilità di vita in sé. In realtà hai ragione, ma c'è un'ultima categoria che invece trascende questo tipo di spiegazioni e... i sassi. No, pensavo avessi detto i sardi. Gli armonicisti sardi. Gli armonicisti. Salutiamo i sardi, incredibili. Sì, sì, grandi. Anche quelli che sono restati in vita dopo questa trasmissione. Quindi senza ulteriori indugi terminerei la lettura. Sì. Esiste un'altra razza di esseri mammiferomorfi, dei quali è doveroso parlare in questa sede, perché risultano essere non cloni, ma schiavi, così gli addotti sotto ipnosi di solito li definiscono, dei sauroidi. Si tratta di esseri piccoli, che chiameremo appunto schiavi, con la pelle molto rugosa, il collo lungo, con i muscoli che flettono e ruotano la testa, equivalenti dei nostri muscoli sternocleidomastoidei, molto in evidenza. La bocca piccola, con labbra di diverso spessore, il labbro superiore è vistosamente più piccolo di quello inferiore, e gli occhi scuri ed umidi. Le dita delle mani sembrano essere cinque. Qualcuno, ad onor del vero, dice che sono quattro, ma riteniamo più probabile che siano cinque. In ogni caso, non sono sei. Qui mi sembrava tipo Abraham Simpson. Il cranio a forma di cuore è tipico, infatti, è sviluppato in modo retroverso, ma presenta un avvallamento al centro della fronte, che scompare gradualmente verso la parte posteriore del cranio stesso. Le orecchie sono più piccole ed un po' appuntite in alto. Questi alieni vestono con abiti non attillati e sono alti circa 1,50 m. Sono stati più volte confusi con grigi o con altri esseri incappucciati, i quali prendono il nome di Jawas di Star Wars, e che, secondo noi, esistono solo nella fantascienza, per l'appunto. Attorno agli alieni finora descritti fluttuano descrizioni di altri esseri con i quali sembra che gli addotti abbiano meno a che fare. Il posto d'onore, e qui adesso appunto si parla brevissimamente, si fa solo un accenno a questi esseri, ma in altri punti della ricerca del professore vengono descritti più minuziosamente, più che nel loro aspetto fisico, nel loro comportamento. Dicevamo, il posto d'onore spetta a quelli che l'ufologia americana chiama esseri di luce, i quali, come vedremo, sono ben altra cosa. Concludendo, dopo 15 anni di fatiche, era stato finalmente stilato una specie di bestiario cosmico, dei cui membri occorreva ricostruire le azioni per poter capire perché erano qui da noi. Questi esseri di luce il professore li chiama Lux. Stavo andando sul sito, scusami, ricordiamolo, è corradomalangaexperience.com, giusto? Esatto. E questo che nella sezione articoli. Quello che sto leggendo è un estratto tratto dall'articolo Abduction-Scenario. Cioè, io sono sinceramente impressionato dalla minuziosa descrizione. Non ho capito quanti... Sono una serie di persone che hanno vissuto incontri che tramite ipnosi regressiva riportano una serie di caratteristiche comuni che poi sono state accomunate nella creazione di questo pantheon, di questa... Esatto. Corrado Malanga dichiara di aver avuto a che fare con 4.000 addotti italiani. Così alti i numeri di cui si parla? Sono così alti, in realtà... 4.000 sì. Mi sembra un numero enorme. È un numero enorme. Fra il resto poi con la domanda, se lui ha avuto a che fare con 4.000 addotti, c'è da pensare che non siano tutti gli addotti italiani, ma solo una parte di questi. E quanti saranno fuori, fra l'altro, dall'Italia, se si parla appunto degli addotti? Esatto, però se noi facciamo una piccola stima, diciamo che Corrado Malanga ha avuto a che fare con 4.000 e potrebbero essere magari un decimo, ok, di quelli che sono davvero gli addotti in Italia. Sto dicendo numeri a caso adesso, mera speculazione. E quindi diciamo che gli addotti in Italia sono 40.000. Allora, stiamo parlando di 40.000 su 60 milioni. E già il numero non appare così alto comunque. Se poi rapportiamo queste stesse cifre su scala mondiale, magari su 7 miliardi quanti siamo, probabilmente non si sfiora nemmeno il milione degli addotti. Ma quindi la rappresentazione che ci stai proponendo è fatta di due aspetti. La prima è una, diciamo, specializzazione interna a delle stesse razze, specie aliene, che svolgono compiti diversi, anche divisi per gradi magari di importanza o influenza, ad esempio con l'essere umano, diciamo, ancora rapito. Altri invece che svolgono un ruolo indipendente, che quindi non mi ricordo quale era, quelle che citavi, mi pare una delle razze sauriane. Quelli che vengono dalla costellazione del Toro. I tauriani, esatto. Esatto. Che invece sono... non interagiscono. Invece, sì. Ma, però un'altra domanda su questo, ma sono così tanto diversi da far parte di una... cioè riescono a essere così tanto diversi pur facendo parte di una stessa specie, oppure c'è una specie di cooperazione internazionale, diciamo, intergalattica tra specie diverse? No, allora, non c'è una cooperazione intergalattica tra specie diverse. L'unica cosa che li accomuna, prima ancora del metodo, è quello che loro vogliono, cosa vogliono ottenere. Per descrivere quello che vogliono ottenere, sempre secondo quelle che sono le testimonianze pervenute a Corrado Malanga attraverso le sue ricerche, attraverso il metodo dell'ipnosi regressiva, che fra il resto, piccola parentesi, è un metodo che ha consentito al professore di accedere non solo a quelli che sono i ricordi repressi o meccanicamente oscurati dagli alieni della nostra psiche, ma anche a quelle che sono vere e proprie altre psiche, altre suggerisci psiche, che chi entra in contatto eterno psichico, e quindi attraverso un'indagine di una psiche particolare si raggiungono sto dicendo che all'interno della psiche dell'uomo, nel momento in cui viene addotto, in alcuni casi vengono collocate l'intera psiche di un individuo alieno. Boia. Questo succede. Ora, io vi sto raccontando questa cosa ed è un po' come parlare di un film raccontando partendo dal mezzo. Non è proprio giusto questo, perché appunto io vi ho detto questo, ma in realtà sarebbe molto più giusto partire dall'inizio, e quindi dal che cosa vogliono da noi, ok? O prima ancora di che cosa vogliono da noi, andare a descrivere quella che è la genesi della nostra realtà. Che però, a quanto pare, è una cosa grande, non ce la sbrighiamo in pochi minuti questa. Non ce la sbrighiamo in pochi minuti, per niente. Però diamo delle suggestioni soltanto per fare poi una conduzione con l'ultima domanda che ti vorrei fare. Sì. Quello che loro vogliono da noi, esatto, è la nostra anima. Non può essere sufficiente come risposta, è troppo... Certo, perché non ho spiegato tutto quello che c'è prima, però era una suggestione. La lasciamo sotto forma di suggestione o qualche tratto più in avanti, giusto per lasciarci per le prossime volte? Attraverso la nostra anima possono assicurarsi l'immortalità, che tendo a specificare è l'immortalità degli anni, non è un'immortalità da morte violenta, è un'immortalità da anzianità. Attraverso gli uomini serve, attraverso gli esseri umani. Sì, perché noi abbiamo una componente animica che loro prima avevano, ma adesso non hanno più. Boia. Questo è. No, va bene, apre un sacco di scenari, incredibile questa cosa. La lasciamo magari un attimo decantare per le prossime. Io passerei subito nella prossima puntata, quindi, a parlare di quella che è la cosiddetta genesi. Si parlerà quindi della genesi non solo dell'essere umano, ma dell'intero universo. Dell'intero universo, della realtà costituita. Incredibile. Sì, va bene, siamo pronti. Cioè, dobbiamo respirare e prepararci, ma infatti non lo facciamo oggi perché non sembra proprio una cosuccia da affrontare in due parole. Intanto io però per le prossime puntate mi farò sicuramente un approfondimento personale andando sul sito Corrado Malanga Experience. Però ti vorrei, come ultimo argomento di oggi, anche perché poi inizia la replica di Uru e quindi ci dobbiamo purtroppo lasciare, fare un'ultima domanda, se sei d'accordo. Certo, certo. Allora, Questo è invece il punto di vista degli scettici, diciamola così, e te la gioco molto velocemente con la pubblicazione che è stata recentemente fatta, per adesso in inglese, della autobiografia, la apro, vediamo un attimo così mi ricordo il titolo, che è Permanent Record. Permanent Record è una recente pubblicazione, per adesso soltanto in lingua inglese, ma prossimamente dovrebbe arrivare anche in traduzione italiana, dell'autobiografia di Edward Snowden, che vabbè, lo sai benissimo, lo ricordo comunque al volo agli ascoltatori, è l'ex informatico della CIA che, vabbè, con le sue rivelazioni ha dato vita al Datagate, ha chiarito come un sacco di governi del mondo spino in massa i propri cittadini alla loro insaputa, eccetera eccetera. È esiliato, come si dice, è emigrato in Russia, da anni vive a Mosca, eccetera. Quindi è uno che adesso non ha tutto sommato da perdere, anzi continua a fare rivelazioni attorno a soprattutto il governo degli Stati Uniti. Ecco, Edward Snowden nella sua autobiografia ha detto questa cosa, che non c'è stato mai alcun contatto con gli extraterrestri. L'ha detto proprio in modo esplicito, uno che sta dentro la CIA e che di cose, come sappiamo, insomma, ne sapeva e ne vedeva, anche perché aveva a disposizione tutti i file informatici. Che ne dici quindi di questo? Cioè, sembra una fonte credibile quella di Snowden. Certo, è una fonte credibile. Io il dato che traggo da questa fonte è il fatto che la CIA non abbia effettivamente dati su questo fenomeno, e ci sta, probabilissimo. Non toglie che questo fenomeno sia reale. Sì, potrebbe essere anche dopo tutto qualche cosa che viene tenuto a compartimenti stagni e quindi ultra segreto anche all'interno di un'associazione, di un'organizzazione. Quello è sicuro. Se, facendo riferimento proprio al Disclosure Project e a Stephen Greer di cui abbiamo parlato in precedenza, Stephen Greer stesso afferma che all'inizio degli anni 2000 l'allora presidente della CIA si rivolse a lui in aiuto, perché gli disse: noi abbiamo capito che il fenomeno è reale e c'è, quello degli avvistamenti UFO e delle interazioni aliene, e a quanto pare tu sei quello che in materia ne sa di più, che però è disposto a parlarne, perché noi sappiamo che ci sono altri che in materia ne sanno di più di noi e probabilmente anche di te, ma questi non sono, ce l'hanno fatto capire molto chiaramente, che non sono affatto disposti a parlarcene. E io mi sono spaventato un botto, parlo in prima persona, ma sta parlando l'allora presidente della CIA, perché appunto io sono il presidente della CIA, quindi se qualcuno coscienziosamente, tranquillamente mi guarda negli occhi e mi dice: io non posso dirti delle cose e non voglio dirti delle cose, evidentemente c'è un problema di sicurezza nazionale, perché poi gli americani la buttano sempre su quel lato lì. Ma il problema non è solo di sicurezza nazionale. Va bene, capiamo bene. Allora, per andare a concludere, una questione che svia di brutto e che comunque ha a che fare però con l'autobiografia di Snowden, e anche per sapere un attimo se secondo te sono questioni che ci possono centrare qualcosa. Lui dichiara: l'uomo è effettivamente sbarcato sulla Luna, dice Snowden, di fronte a, come sappiamo, molte ricerche che provano a smentire o a confutare questo avvenimento, cioè il fatto che l'uomo sia effettivamente sbarcato sulla Luna. E a proposito, dico l'ultima, delle scie chimiche, le bolla come un fake. Questi sono due argomenti un po' laterali, ma che ne dici? Sempre l'autobiografia di Snowden, dico. Io sulle scie chimiche sono convinto anch'io che siano un fake. E l'uomo sulla Luna? Mi sono documentato, ma poco. Io penso che l'uomo sulla Luna ci sia stato, ma non nel 69. E in effetti Snowden non ha detto in quale anno, però io penso che dopo tutto, se c'è stato quell'impronta famosa di Armstrong, la bandiera piantata, dovrebbero tuttora essere lì, e magari è possibile vedere se effettivamente questo è vero. Sì, però dovresti avere accesso, si dovrebbe avere accesso a dei telescopi piuttosto potenti. Sì, è vero anche questo. Io ho un binocolo! Potrebbe essere, se ne metti due uno davanti all'altro, forse funziona a quel punto. Sì, forse sì. Va bene, comunque questi erano argomenti laterali, ci ritorniamo sicuramente nelle prossime volte e beh, rimaniamo sulla cosmologia, cosmogonia e gli argomenti generali, e quindi la prossima puntata sappiamo infatti dove andare a partire. Dacci ancora la genesi. Non solo delle specie viventi, ma dell'universo. Di tutto, dell'universo. Boom. Ancora una suggestione? Dai, siamo carichi. Ok, all'inizio di tutto, quindi, cosa c'è? Al di là del nulla, che forse Antonio non esiste. Antonio Probo. Energia fluttuante che a un certo momento collide e dà origine al cosmo. Bravo, molto bravo. Più che collide, che si accartoccia su se stessa, nel senso che all'inizio c'è la coscienza. Questo è l'inizio di tutto. All'inizio c'è la coscienza. Cosa fa la coscienza? La coscienza, per avere esperienza dell'universo, che è nient'altro che se stessa, qui entriamo anche in concetti filosofici, ma si scinde in due parti per specchiarsi, per riflettersi, per riflettere, per l'appunto, per avere esperienza di se stessa. E quindi si scinde in due, e quindi nasce il dualismo in questo momento della Genesi. Prima c'era solo l'uno, dopo il due. E lo fa quindi per avere esperienza di un inizio e di una fine. Perché essendo coscienza, e poi capiremo anche sempre nella prossima puntata, essendo che il tempo non esiste, ma questo non lo dico io e non lo dice soltanto non Malanga. Non nella forma almeno in cui la si conosce, sì. Esatto, è un concetto sì. Su cui sono tornati in tanti, tra cui anche Einstein e tanti altri. Ma diciamo appunto che essendo che questa coscienza è e non è nel tempo, è tutto, e quindi conosce tutto, qualsiasi cosa. L'unica cosa di cui non ha esperienza è un inizio e una fine, quindi una nascita e una morte. Si scinde in due, in un primo creatore e in un secondo creatore, li chiameremo così, per avere esperienza di questi due processi che in realtà sono fondamentali, come vedremo. Va bene, sono incapace in questo momento di fare un mio commento su cose così particolari da sentire, soprattutto queste ultime che stai dicendo, quindi mi riservo anche di prepararmi un po' per la prossima puntata. Infatti lasciaci ancora un paio di indirizzi. Ricordiamo corradomalangaexperience.com, giusto? corradomalangaexperience.com, e poi c'è sirius.com o .org, non mi ricordo, che invece è il sito del Disclosure Project. Io vi metto in guardia sul Disclosure Project nel senso che è un progetto estremamente sensato ed estremamente partito con i migliori auspici, con le migliori intenzioni, ma che secondo me per l'appunto si è fermato a un grado un po' troppo superficiale, nel senso ci dicono sì, il fenomeno esiste, ci sono tutte le testimonianze, questi sono i testimoni più che attendibili, e questo è il grande lavoro che ha fatto il Disclosure Project, a dire la verità. Però poi non è sceso a fondo in quella che è la verità, nel senso perché sono qui. Loro parlano o cosa vogliono da noi. Loro rispondono a queste domande dicendo vogliono semplicemente il nostro bene e vogliono proiettare le nostre capacità tecnologiche verso un futuro di prosperità. Ma secondo quello che è stato scoperto dalle ipnosi regressive condotte dal professor Malanga e non solo nel mondo, le cose non stanno proprio così. Va bene, lasciamo allora grandemente in sospeso, direi fra un paio di settimane, che ne dici? Non domenica prossima, ma la successiva torniamo a dialogare di questo, magari? Se... Ci sarò. Dai, allora... Domani! Domani, facciamolo domani, tutto il giorno, da mattina a sera. Mettiamo una canzone e poi ci sentiamo per i saluti. Vitalik, my friend, Dario. Bro, Probo, l'hai scelta... Bellissima! Ah, questa infatti era la migliore, cazzo, dedicata a Dario Nardella. Dario, tanti auguri, oggi fa il compleanno, fra l'altro. Non smettete di guardare verso le stelle. Oh, io tutte le sere comunque guardo e ci spero davvero a un certo momento di vedere una cosina che si avvicina, non mi capita mai, anche se ora gli incontri avvicinati del quarto tipo, del quinto tipo, mi hanno un po'... Quarto. Io anche, sempre, su Pornhub, un sacco di stars... noise of wheels make one screeching on the tarmac. Echoes in his head, then echoes from his face. My friend Dario is a super mega car. Flies too fast, flies too flash, flies too fast, too fast, too fast, too flash, too flash. Doesn't care about the crash. Bella era, bella my friend Dario, molto bella. Beh, allora, Probo, sei con noi? Maestro, ci siete ancora? Io ci sono. I am. C'è anche il maestro che gli vorrei fare un'ultima domanda? Sì, eccolo, falla a me. Allora, ti vorrei chiedere, Antonio Probo, la affidabilità di un documentario che nel frattempo ho cercato, che si chiama Sirius, un documentario del 2013, fatto appunto a partire dalle ricerche del Disclosure Project di Adam Greer. Che ne certo, dici? Sì, aspetto la domanda perché finora sto solo perdendo tempo. È buono la domanda? Sto aspettando la domanda. È un buon documentario. Quanti anni hai? Nel 2013 avevo 7 anni. Quindi ne hai 14 adesso. Sei un ometto ormai. Mi fa piacere che tu ti stia spezzando con noi. Allora, la domanda quindi se è un buon documentario? Sì. Allora, per me, ora parlo esattamente con il maestro Ottani, faccio le veci il maestro Ottani. Allora, un buon documentario è... Hai un minuto. Un documentarista, o meglio è Werner Herzog, non è un grande documentarista, cioè una persona che... È quello della marcia dei pinguini, vero? Sì, un tedesco del cazzo che vagava a piedi, che invece di fare quello che fanno i tedeschi bene, ovvero uccidere gli ebrei pensando che fossero dei muffin, vagano e poi documentarizzano su cose del cazzo inutili. Ok, quindi io penso che questa cosa che questo aspetta, c'è Maestro Ottani vuole aggiungere qualcosa riguardo il tempo di cottura, forse. Ragazzi, mi ero allontanato, pensavo che avevamo finito. Ti volevamo salutare, nel frattempo però ti volevo domandare se il Disclosure Project, il documentario Sirius, scusa, il documentario Sirius è una cosa da guardare. Sì, c'è il Disclosure Project sia Unacknowledged, che è su Netflix, ma si trova anche in streaming tranquillamente. Come si scrive? Unacknowledged, UNKNOWLODGE. ANALEMIPIAC. E poi c'è il Sirius, c'è Sirius che è l'altro documentario che è uscito dopo, soltanto che quello è praticamente introvabile, e loro ti chiedono 3 euro, con 3 euro te lo porti a casa se lo scarichi. Va bene, mi formo un po', allora per la prossima puntata mi formo. Sì, ma meglio del Disclosure Project è meglio Corrado Malanga. Iniziare una conversazione è abbastanza introvabile, poi ho 3 sì, abbastanza introvabile nel senso piratato, che è come ci piace a noi. Va bene, siccome abbiamo 50 secondi e poi alle 22 esatte scatta la diretta, la replica di Uru, voci, suoni e musica dal continente africano, è il grande momento. Ok, faccio in tempo forse a recitare l'atto di dolore? Non credo, chissà. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore i miei peccati. Fai un urlo. Ti amo Carlo Calenda, ciao, viva il Cigno. Viva il Cigno, ciao a tutti, grazie Antonio Provo, grazie Maestro Ottani, ci risentiamo presto, continuate a stare sempre sintonizzati qui su Radio Wombat, sigla e a molto presto, come sempre una puntata lunghissima, 3 ore, viva Wombat! Gang! Radio Womba. Da sempre e obiettivamente la migliore.